non lo sapete neanche voi, deve essere sicuramente qualche radioamatore che non ha CB, perché mi è sembrato di vedere anche una Mantova, amico, capito? Ho detto, ma allora quella lì era Mantova, ho detto, quella del CB. E poi va bene, magari già lo becco, magari gli richiedo chi è. Tanto faccio quelle zone ultimamente. Se l'ha fatto, guardate via pure, che stai sbagliando tu. Io di negozio lì non mi ricordo, so che ci sono delle cose per entrare le campagne e basta, negozi, pure in quella zona, proprio meno a me. Ma c'ha anche delle palme, perché questo ci aveva delle palme lì. Non lo ricordo, non te lo so dire, anche se ci sono stato, quello lì c'ha baracchini per coprire tutti i cibi di sassi. Cos'è, radioamatore? CB è radioamatore. Allora sicuramente è lui, dai, perché ci aveva anche antenne di radioamatore, capito? Bene, bene, dai. Oh, ma in macchina c'è Gianni? Una bomba, una bomboletta. Ma stai rientrando o stai andando a lavoro? Ma sto rientrando, in casa questa la devo fare andare a lavoro, io gioco, metro. Sono uscito alle 7:30, capito? Ah, gappa, dai. No, perché anch'io quando facevo quei servizi del 118 lavoravo anche di notte, capito? E adesso andavo un po' che non ci vado, quindi magari sono cambiate le cose. Bene, bene, dai. Un passaggino a Giulio, dai, avanti. Intanto nel frattempo ho cambiato il microfono. Sì, sicuramente è Walter, ma già hai parlato una volta. Tempo fa era entrato e c'eri anche tu, tu magari adesso non lo sai, anche perché non lo sapevi che lui era radioamatore. È Walter, quello ha apparecchi per coprire tutti i CB della Sardegna, non di Sassari, no, di tutta la Sardegna. Ne avrà, senza esagerare, 300-400 di apparecchiature, fra baracchini e apparecchi professionali, dunque non ti meravigliare. Ma il traliccio che hai visto praticamente era al centro di della campagna, in un bunker, hai visto che c'era una muratura bassa, lì sotto c'è tutta una stazione. Ecco, allora c'era la casa davanti a me, nella mia prospettiva c'era la casa, il giardino, vabbè, era tutta campagna a fianco. E quanto sarà stato? 15 metri, 10 metri dalla casa c'erano, e io ho detto traliccio, ma mi sembra che ce n'erano una decina di metri, ma asimi, una cosa enorme, e le antenne tutte piazzate, a fianco invece c'era un tubo con la Mantova. Ho detto, quello è di CB? Ho detto, quando mai non l'ho mai sentito? Infatti volevo chiedere, ho detto, ma chi è quel radioamatore? Che magari per capire, vedete, ci avevo parlato anche da casa. Comunque la situazione è quella, poi vabbè, non è che stavo lì a guardare, a fare, ho visto perché mi ha dato all'occhio questi tralicci, capito? Questi pali enormi con tutte le antenne, ho detto, questo deve essere una bomba. Il gruppo elettrogeno di camion, di quelli tipo motore di camion, di quelli grandi, enormi, che alimenta tutta la stazione. Fatta bene, dai, una cosa ad hoc. Il fatto è che si trova molto in basso, è una zona molto bassa. Se fosse stato nelle zone nostre o nelle parti di Osio, guai, lì avrebbero sentito, vabbè, già lo sentiranno, ma sarebbe stato ancora meglio. Perché in effetti come zona quella è molto bassa, mamma mia. Sì o no, è anche più bassa di Sassari. Quella zona lì è molto buona, tu non sai quanto sia buona quella zona, non la conosci, se è Walter la costruito io perché c'è un motivo. Dai Ponti è una zona buonissima per tutti i paesi della Sardegna, per la zona del mare, per l'altra zona verso tutta quella zona lì, è tutto libero lì, capito? Non ci sono palazzine, quello che c'è è libero di brutto lì. Già lo so, già è vero, però non so come fa a parlare con Santa Teresa o la Maddalena, perché in effetti sembra così, ma il monte di Traugilo Nulvi blocca parecchio, Ho ascoltato ai miei tempi le gare che facevano, parlavano con Olbia, parlavano con Baresi, con tanti paesi di notte, potrei fare di niente, capito? Le pendici del monte di Usilo sul canale 40 si mettono, se volete partecipare fuori strada raduno e ci sono tutti con il baracchino e si mettono sul canale 40, me lo stava dicendo un amico di Usilo. Se volete entrare a vedere, a me me l'ha detto perché è un amico, capito? E a chi è a 40 ci siamo domenica e c'è una manifestazione col CP, con le Jeep, no, e che canale c'è su canale 40? Domenica 30 ottobre. Ma non ce l'hanno chiesto il permesso a noi, vero già? Così si divertono. Poi, quando, di mattina o di sera sono, Gianni? Ho detto, questa manifestazione, quando la fanno, di mattina o di sera? Gianni, tu la a Manzanile fino a zero. Praticamente è tutto il giorno, là. Tutto il giorno ho impegnato il canale 40. Ho capito, vabbè. Tanto a lui non ci serve il canale 40, non ce ne frega niente. Poi chi ha voglia di andare a vedere, prende la macchina e si fa un salto. Comunque grazie dell'informazione Gianni di Chiaramonti. Gianni Chiaramonti, ma un nominativo per distinguerti, perché di questi Gianni ce ne sono diversi per questo. Un nominativo non te l'hai mai cercato? Sì, No, aspettate, dai, adesso sono entrato così, qualificandomi per Gianni Chiaramonti, però lascia te fa tempo quando mi faccio una stazione come Tesidocca, una cosa bella, proprio professionale. Ti ho detto che sto prendendo tutti i vari pezzi che mi servono, proprio bella, ho preso anche il tavolo proprio per appoggiarci tutta l'attrezzatura perché non me ne bastavano. E sto cercando un nominativo bello, capito? Adesso sono deciso, tipo CH27, però non mi piace così, una cosa tipo ecco a voi Alfa Charlie 89, capito? Una cosa del genere, me lo sto studiando, perché in effetti è una rottura di balle, Gianni Chiaramonti, da lì chi che so del Taramonte, ma capito anche una cosa più già un po' più professionale, chiamarmi con un codice, che in effetti stare sempre Gianni, poi ci sono tanti Gianni e non si comprende nulla. Di Tango Mike, te lo dico da un attimo, Tango Mike! Bello! Attenzione Gianni, di Chiaramonti, dove sei, cantone sei? Una data di nascita, qualche cosa, buh! Adesso mi devo sistemare la stazione, ne ho preso poco di roba, mamma mia! Ma quando a montare la cosa ne passa di tempo! Mi auguro sempre Sì, roba professionale sto prendendo, non sto più prendendo roba dei cinesi, ui. Anche l'antenna, adesso mi hai detto, questa mantova però ne ho trovata un'altra, adesso non mi ricordo la marca, e lo sai cosa fa? Va dalle 3 MHz alle 150, fa tutto, e costa 150 euro, e ho detto, non mi ricordo la marca, non me ne chiede perché non me la ricordo, ed è una bellissima, buonissima antenna, puoi caricarci molti watt, fa tutte queste frequenze, siccome ho mezza intenzione di premere anche qualche altra frequenza fuori dalla CB, allora mi prendo quell'antenna per iniziare, è molto buona, dai. Poi c'ha le 3 MHz, quindi magari anche andando in altre frequenze per ascolto va benissimo, è di lusso. Poi magari a fianco ci metto la mantova, capito? Ne metto 3 adesso le antenne, non una, 3, sì. Bella, piazzata, alta, e fino anche io oltre all'inizio, da bile. Va bene. Ci sta comprare una buonissima antenna. È una buonissima antenna, ha solo un nome, Mantova. Poi che sia 1, 5 o turbo, va bene. Lei della turbo che ha un guadagno molto superiore a tutte le altre due, anche una gamma più larga, una banda più larga. Perciò vedo un po' giù. Poi per quanto riguarda l'apparecchio, ma tu non dovevi comprare un apparecchio da un amico, non so, forse era un HF o qualcosa del genere, un Incom mi sembra. Preso, quell'apparecchione bello l'ho preso, quello ti ricordi, quel tipo quella Lafayette Petrus, quella roba lì, quello base fissa a 220, quello l'ho preso, un affarone nuovo, c'aveva ancora l'imballo, anni 90, bande laterali, l'ho preso, siccome sto imparando, voglio studiare il codice Morse. Quello a ti ora cazzo di cosa etichettare, no? E me lo potevo piazzare, già mi so l'apparecchio 200 euro me lo compro e mi piazza anche quello, il CV mi. E voglio comunicare anche al codice Morse, e tutto, questa volta Gianni deve imbattere, se no non ne faccio, o mi faccio una cosa come si tocca, se no a stare così alla roba dei cinesi a tipo zingare non ne faccio, questa volta Gianni si mette l'impegno, infatti se mi serve qualche aiuto già vi chiamo qualcuno di voi, là, poi ci facciamo una cenata, là, già c'è il camino, c'è tutto. Allora, innanzitutto si chiama CV doppio quello che vuoi fare tu, per fare quello ci vuole la patente e poi non serve nemmeno impararlo, perché intanto all'esame, anche se tu hai intenzione di studiare, non c'è più quell'esame lì, dunque non ti servirebbe a niente, guarda, a niente questo tasto del CV doppio, perciò cosa ti vai, niente, non ti serve. Poi naturalmente tu sei padrone di fare quello che vuoi, chiaro, no? Questa è una cosa scontata, non c'è bisogno che te lo dica io. Però stai prendendo una cosa inutile, innanzitutto ti è inutile perché non hai la patente, perché per poter trasmettere, ripeto, col CV doppio ci vuole la patente del radioamatore, per avere la patente del radioamatore bisogna studiare e fare un esame a Cagliari e naturalmente essere promosso, se uno non è promosso ritorna 10 volte lì, fin quando ci riesce, se hai tutta quella buona volontà va bene, se no ciccia, capito Gianni? Ma a parte quello, a te ti serve un buon apparato, ma sembra che l'hai comprato, un Incom, è un'antenna buona, basta, e non hai problemi per la CB, non hai altri problemi, quando tu hai un buon apparato, una buonissima antenna, è un buon microfono al limite, e va bene così, non ti sentono un po' dappertutto, qui a Sassari sicuramente ti sentiamo abbastanza bene, già ti sentiamo così, figurati se poi ti attrezzi come ti ho detto, senz'altro arriverai molto meglio, capito Gianni? Non è vero, si è comprato niente, non ce l'ho perdere. Sì, sto comprando di tutto, di più, microfoni sia, mi sto facendo a beffa, prima faccio, non so se mi sono spiegato bene, ho detto prima mi faccio la base, poi piazzo l'antenna, perché sennò poi la foga di, c'ho l'antenna piazzata e comincio ad attaccare e poi non c'ho i pezzi giusti, no. Alimentatori da 40-50 ampere, roba che imbatte, io mi sono scocciato di avere roba di 10 ampere, 2 ampere, ma insomma, compra, vai e falla bene questa volta, sempre le cose giuste, a norma e regola, poi infatti adesso, questo della patente, siccome c'è un amico mio, mi sto spiegando un pochettino di cose, me la devo fare, di brutto. Sto studiando tanto, già sono ancora giovane, il cervello già è ancora sveglio, se no a 40-50 anni voi si addormenta e non ne ha voglia di studiare, invece studio adesso, mi sono entrati due spiccioli, quindi allora me li spendo lì e buonanotte, e così mi rimane una vita. Va bene, studia se devi studiare, se hai voglia. Vediamo chi è l'amico basso, avanti quell'altro amico che interferiva un attimino fa, che non ho capito bene cosa diceva. Ho detto che già ne dichiara Monti, se mi compri, non si è comprato niente, non è tutto vero. E tu chi sei? Presentati, da cosa parte Giulio, tu chi sei? Barracuda. Dollaro, Antonello Barracuda, buonasera. Qui Sassari, dai Sassari vecchio, in mezzo al traffico. Ok, ciao Antonio, non ti avevo riconosciuto, abituato a sentirti molto bene, molto forte, adesso si è stata lì in mezzo al traffico, e vabbè, anche la giornata un po' così, oggi c'è molto QRM, lascialo fare, lascia a Gianni di Chiaramonti, che questa volta è lanciato, meglio così, buon per lui, vediamo se c'è Leoncino ancora, Leoncino. Yeah, Giulio, mi senti a me? Sì che ti sento, perché no? Ma Gianni mi sente? Gianni dove sei? Che zona sei? Sì, ti ho detto che sono al Monte Bonaria e ti sento alla grande, anzi sento a tutti quanti alla grande. Tu vuoi sapere quanto arrivi? La radio è ottima, 5 più e Santiago è 9,20. Buono. Capa, ma dove si trova questo monte? Che zona è? Che zona è? Che avete la conosci? Oh, Giro e Leoncino. Aspetta un attimo. Antonello Barracuda e Gianni Dottor Russo, ci siete. Si è comprato il baracchino preciso al vostro, in pratica. Lui ha la Fayette Petrus, quello alla base, che non è altro che il garage Saturno Eco, tutto lì. Vero Gianni di Chiaramonti? Allora, non è il Petrus, è una Fayette B507KR, è una sigla un po' lunga, no, non te lo so dire perché non me lo ricordo neanche più, non è il Petrus. Ti devo dire un'altra cosa, siccome ho fatto un giro e mi devo comprare il turbo la Fayette, e quella è una super figata, e quello me lo compro di brutto, e c'ha frequenzimetro incorporato, c'ha bande laterali, c'ha tutto, non gli manca nulla, si chiama turbo, allora la Fayette turbo è un'altra sigla a fianco, e quello me lo compro subito, manco terra tocca. Lascia perdere, che non è vero, sono tutte balle. No, non è possibile. Poco fa ha detto che aveva la Fayette Petrus, avanno ve la più, non è possibile. Turbo, sai qual è? Il garage turbo è quello lì, quello che stai dicendo tu. È un apparecchio vecchio di 20 anni fa. Se lo trovi, buon per te, 100 watt quell'ora di potenza, solo l'apparecchio. Se lo trovi, tanto di guadagnato, se ti piace. Vabbè, riprendi Antonello Barracuda. Eia, buonasera a tutti, non so se mi copi adesso, qui sono nella zona della caserma Brigata Sassari, volevo dire, io ce l'ho il Galaxy Saturn, non il turbo, però quello, il Galaxy Saturn normale ce l'ho tranquillamente, come esco sempre direttamente da casa, a il parcheggio. Comunque già di Chiaramonte, lui prende, poi non lo sa neanche lui cosa vuole prendere. Dagli un consiglio, digli di comprarsi un bel Midland Alan 44, compra quello e lui ha tutto quello che le serve. Vabbè, mi sono espresso male, va bene, dai, ho detto che c'è presente la radio grande a 220 che prende l'alimentazione a 220 grande, è come il Petrus, ma non si chiama Petrus, si chiama un'altra cosa, però è sempre della casa madre della Fayette, non te lo ricordare, da Bonato, B507, poi no. Non me ne ricordo l'altra sigla, anche perché adesso questi giorni non ero attaccata alla base, ma stavo facendo altre componentistiche e altre cose, quindi non stavo a perdere tempo a guardarmi il codice della radio. Uno. Seconda cosa, esiste, è informati che c'è anche questo Lafayette Turbo inteso in Arara, che adesso lo stesso non mi ricordo, è la sigla, e informati bene che quello a 300 watt va, molto di più, e poi per il resto nient'altro. Vabbè, che ore sono? Le 8, e vabbè, dai, un salutone a tutti, perché sennò qua si fanno le 9 e poi la strada è lunga, dai, salutoni. Ehi, corri, se no il negozio chiude per comprare l'apparecchio. Sono Antonello Barracuda. Ehi, buonasera, Leoncino, ben sentito. Ebbè, faccio il tiro, ragazzo, a andare, ragazzo, mi stava scappando la risata, ragazzo. Pulito, pulito, un tappo compreso, poi te lo voce riende. Tra tu e Coso, cazzo, non so chi era, il gatto era volpe, cazzo. Così tanto ci vuole, dai, io gliel'ho consigliato a Gianni di Chiaramonte, non so se mi copierà qua, di comprarsi un bellissimo Midland Alan 44, quello esce con 180 watt di portante fissa, immagino di modulato, il Midland Alan 44, compra quello e c'ha tutto quello che ti serve. Quale 100 watt? Dua mizza. Allora, Dua mizza, esce 180 watt di portante fissa, modulati fai un 30 watt in più, dai, un 200 watt. 3.000, oh, non ci credino, costa 1.259 euro l'amplificatore, e me lo compro, lascia a vivere. E ti ha già compreso, ma è troppo a morte, no, poi non te lo so fai dentro dell'alimentatore, non te su baracchino so fai dentro. E beh, te su baracchino, ma che ne paragonare su baracchino, con cucciolo rudo, va, e beh, tu cadrudo cucciolo, è bellino, non c'è nulla da dire, è bellino, ma con l'attrezzatura seria me ne vado a comprare una scatola di barattoli di fagioli, ma menisci. Quello si tiene così a farsi il bidet, gli altri è per parlare come si tocca. E questo già è vero, si tiene, se mangi i fagioli anda a trolliare, te che chiedinesa, boh, vedi un po' tu. Ma se fai tanto di trolli, io sono tanto abbonato il cattolo del fagiolo. E a salvire, siamo in tema. Allora, va bene, dai. Salutoni a tutti, a Giulio, a Gianni, che è stato accantonato, a Leoncino e a te Barracuda, dai. Ciao. Ehi, ma c'è che anche Gianni doppio rumba? Sì, ma era arrivato a casa, Luca, non è stato accantonato, lui è arrivato a casa, stava rientrando, dunque era in macchina, di conseguenza poi non si è sentito, perché senz'altro quando arriva a casa ha altre cose da fare, prima del baracchino, dopo il baracchino, prima si deve fare quello che deve fare, e poi il baracchino. Babbo, ciao già, ci sentiamo allora, dai. Va bene, comprati vignare, comprati quello che vuoi, però ricordati che si inizia sempre con un buon apparato e con una buona antenna, poi tutto il resto viene dopo. Va buono, ci sentiamo, dai, buon viaggio, visto che deve rientrare in paese. Va buono, avanti Antonino. Ehi, sicuramente Gianni Dottorum è rientrato a casa anche lui a mangiare fagioli. No, niente, qua sono lì, a Zambicata Sassari, e non so dove tu ti trovi, è basso il segnale. Sì, ti sento a malapena, ti sto ascoltando in cuffia, Antonio, è basso il segnale, oggi c'è molto QRN, capito? C'è la propagazione, dunque il QRN è a 1000 oggi. Vabbè, dai, io vi saluto e scendo giù a cenare, dai. Ci sentiamo un altro momento. Ora sì, anche stanotte qualche chiacchiera così faremo, non lo so, a più tardi. Ciao Gian, allora, Antonello Barracuda, Gianni di Chiaramonti e Leoncino, ti lascio con Antonello Barracuda, vai, riprendi, ci sentiamo, ciao. Ciao Giulio, ciao, buona carica, buon tutto, dai, ce la risentiamo tutte le prossime, dai. Giulio, alle prossime. Leoncino, aspetta un secondino, arrivo subito. Cioè nove. È un Cino. Cino? Oi, dimmi Antonello, ci sei, Barracuda? Sì. Antonello, non ti sento. Non mi senti? Adesso stiamo mettendo un portante. Ehi, dove sei? Il portante si stanno mettendo ogni volta. Ho detto, ma che zona sei? Sei qui a fare un giro a cercare qualcosetta, qui la brigata Sassari, alla caserma, di fronte. Ah. Guarda, ogni volta che parli tu ti metto un portante, non ti sento. Cosa vuoi fare? Ascolta, ma domani su devi salire. Domani mattina sì. Che ora? Chi c'è? Dovrebbe esserci io, Antonello Pomponio, non non so se sarà Gianni, doppio Ru, Claudio, non lo so, tutta la crepa che c'era l'altra mattina, l'altra domenica. Hai capito, Antonio? Ho copiato, è sempre i soliti di domenica scorsa. Cappa. Già va bene, sempre importante, maledetto che ti vedano. Dovrebbe venire anche Domenico Tardanetto, Tu che era verso il Caravai, verso le 11 sali? Ah, verso le 10, 10 e qualcosa, 10 e un quarto, 10 e mezza, là, e sono lì. Ma ora nel caso ci troviamo lì allora. Scappa, non ci sono problemi. Eia, scusi un attimino, aspetta che sporca la macchina, che è un casino qua. Eica, va bene, non ci sono problemi, Antonè. C'è nessuno in ascolto? Leoncino? Attento Leoncino! Leoncino? Leo! Leoncino? Cino? Leoncino? Ehi, ciao Gianni, doppio, a Polero Barracuda. Come hai visto? Male. Come mai? Perché mi ero qua alla ricerca a vedere se c'era qualche ristorante, qualcuno che serviva a fare cameriere, barista, niente. Dove sei andata? Ho girato un po' i locali qua nella zona di Sassari, dai, sulla zona centrale dove c'è un pochettino più di traffico. Un po' più di gente, tutti no. E poi anche no. Un casino. No, dimmi tu. Ascolta, io ti avevo sentito che eri in ferie. Eri in ferie quest'estate, se non ricordo male. E sei andato in un centro commerciale nuovo a Olbia, o sbaglio? No, a Olbia. Nel Cagliari di Lana. Ah, Cagliari, non a Olbia. Sì, vicino a Cagliari, a Monastiri. Ah, Monastiri, no, se mi sei avvicinato lì a vedere a Olbia, anche andare a Olbia se c'era lavoro lì. Ah, a Monastiri, ho capito. Queste cose d'estate, prima dell'estate dovresti andare, perché loro lavorano molto d'estate lì a Olbia. È quasi come andare a Olbia, andare in una città continentale, non c'è andare a Olbia. C'è tutto quanto, c'è... ci sono gli autogrill, insomma sono una città continentale. Ah ecco, già va bene. Ora sei rientrato, ti ha fatto la doccia, ha mangiato i fagioli oggi, così è. Adesso sei a letto? No, non sono a letto, sono seduto sul letto, sono al computer che sto guardando un po' di me. Ah ecco, e domani su sali? Penso di sì, dai. E ora? Ah, ci vediamo sempre verso le 9:30, così, quell'ora lì. Presto, tranquillo, già va bene. Se ce la faccio salgo. Io. E anche da lui, ti ha detto, fa domanda da noi, ma... sta andando anche così da noi, c'è poca vendita, casino, sta tutto male. Tu pensa che il 3D... il bar di Via Roma era uno dei più rinomati di Sassari, faceva questi soufflé di riso perché cucinavano anche, c'erano piatti, tavola calda, bar, insomma, era sempre pieno. Beh, è stato bruissimo. Dove è questo, a Sassari? E quello che c'è Via Roma, Trebì, non lo conosci il bar, Trebì. Ha chiuso anche quello lì. No, la verità non ce l'ho presente, Via Roma sì, però quel locale lì no, la verità niente, non ce l'ho presente, no, assolutamente. È quello praticamente che rimane prima della traversa per andare da Di Lupo l'ultima. No, non ho capito la zona, però non, la verità non ci ho fatto mai caso per quel locale lì, ed era abbastanza rinomato, così è. Ah, quella specie che faceva tavola calda... aveva la specialità di succhi di riso, lo facevano due buoni. E poi andavano anche al bar, sedevano al tavolino, insomma, era sempre pieno. Allegria, già va bene. Ascolta, ieri ho acceso, verso le 10:30, 11, un orario del genere. E non c'era un'anima viva, come mai? E io c'ero, ma ho chiamato un paio di volte, non mi ha risposto nessuno e ho chiuso tutto. E cosa avrei fatto anche stasera? Mi sono andato a guardare la Maria dei Filippi, se non avesse risposto nessuno avrei guardato la Maria dei Filippi, te lo dico già, perché ce l'avevo già proprio in mente di fare così. Mi sa che alla fine conviene, così almeno si rinvoglia a modulare, come dice la mia signora, con le persone buone. Sai cos'è? Che ogni volta che guardo quel programma mi ripristino le ghiandole lacrimali, quindi un po' sono così a guardarlo, perché sono molto sensibile, certe cose mi toccano profondamente proprio. Diciamo che ti ho visto, non mi sembra una persona, sei una persona grande, grossa, alto, ma così sensibile, no? Eppure così. Devo metto a Patrizia che sta già piangendo. Cosa? Detto Patrizia che sta già piangendo a sentirti parlare così. Esagerata. No, è così. Io dico sempre che le persone non si misurano mai a palmi. Se non fossi stato sensibile non avrei fatto volontariato, prima cosa. No, quello sì, sto scherzando, per carità. Sto scherzando, no. Non prenderla male, dai, era una battuta così. Una battuta scherzosa, tutto lì. No, ma figura, lì la battuta, non guardarti quei programmi che ti fanno. Mia moglie dice che ripristinano le ghiandole lacrimali, che sturano tutto il canale lacrimale. Allora anch'io dovrei piangere, che sono un po' per stare in carico un po' la tensione. Diciamo che me la prendo come un senso di debolezza, sai, a volte tieni dentro finché poi non scoppi. Lo so. Guarda come, poi ho trovato un amico che lavorava lì a Porto Torre, se l'hanno licenziato, si è preso un furgone. Si è preso il furgone a seconda mano, molto scassato così. Sai cosa fa? Va dove c'è l'isola, dove dividono, diciamo, la cosa da smaltire, la moneta da smaltire, no? Si raccoglie il ferro, il lame e se lo vende. Ma è toccata roba di dinamico, se l'avessi saputo da prima, l'avrei fatto da prima, rame, cassonetti in ferro, li porta via tutta la roba in ferro, li portano lì, la porta via lui e se la vende. Infatti che sentivo un basso, te lo volevo dire, pensavo che fossi a droga. Poi prova in altri settori, se non è andato con lui prova in altri settori, ma ci sono dei settori che tipo magazziniere, roba così, non si è provato. Ma poi... Ehi, basso ti sento, Antone. Antone, ascolto. Yeah. proprio dove sta lavorando, va. Non disperare, magari in un altro settore trovi. Se l'ha fatto anche quello già, l'ho messo anche nell'occasione. L'ha fatto anche quello, fatto più di una volta. Fallo su subito.it. No, me lo sto copiato, scusami. Mettilo al computer su subito.it che va di più dell'occasione. Che adesso all'avanguardia c'è quello, subito.it. Ho fatto anche quello, adesso ho messo anche l'annuncio sulle MSN. E lì ho messo tutte le mie generalità, i lavori che ho intrapreso e ogni giorno arrivano le, diciamo, gli sms per i vari lavori che propongo dalla provincia di Sassari e dintorni. Vado sempre in biblioteca a controllare, a vedere se c'è ogni giorno. Però stiamo cercando sempre altri settori, saldatori e compagnia bella, tra magazziniere, mobiliere, scaffalature, tutto il resto che ho fatto, caseificio, non c'è niente per quello. Io come si fa a campare? Antonio, mi devi dare 2 minuti solo che mi sono dimenticato tutte delle pastiglie e sono vitali, se non le prendo posso sentirmi male. Ma se quando solo e vengo su chi fa. Vai tranquillo, tanto io sono quasi arrivato a casa, intanto di scendere e accedere l'apparato, vai tranquillo, la ti chiamo io sul 10. Ah, poi comunque salutami tutti i componenti della tua macchina, la bambina e tua moglie. Gli altri salutano tutti e due. Bello. E mi guardo su internet. sai, io la faccio nel per dei incubi, di cose, quando queste cose qua, ne ho già ordinato uno dei carabinieri, che è bellissimo, è grande, troppo grande a far volare in casa, è per un casino. Io c'ho quelle miniature dei cinesi, ma sono non valgono a niente. Ci vuole di quelli professionali, anche c'è la pista Valghero. Diciamo, c'è anche gente che ti impara gratuitamente per saperli usare. Quello che ho io è professionale, c'è la batteria che dura un po', la scocca non è fatta dura, non è dura come le altre. Steccate, si avanza, tu li trilito da dietro e la riadissi, tranquillamente, è morbida morbida. Ma non è fatta in polistirolo? No, no, non è polistirolo, è una plastica morbida. Cioè malleabile, capito, tu se c'è una mancatura da dietro, quindi te la tocchi e la dici. Buono, ma cos'è? È proprio un di quei modelli piccoli, diciamo. No, questo qui è proprio 80 centimetri quello che c'ho. Ah, ecco, e quanto ti dura la batteria? Minimo, ma minimo. Ma minimo e massimo 10 minuti buoni. No, di più, questo qua dura mezz'oretta. Tu pensa che l'ho utilizzato ieri, l'ho portato giù perché c'era quella di fatto a casa, lo volevo avere volare. Siccome di fatto a casa c'è un tratto verde, l'ho fatto volare giù e ho giocato un po', l'ho fatto andare anche in alto, qui è una partenza, sì, è un po' rovesciata, ho toccato le eliche, si sono staccate le eliche. Allora che ce l'hanno ricambio, li ho cambiati, adesso ho paura a farlo volare perché è troppo bello, rovinato mi rotto. Una cosa, domani, tanto siamo tutti su domani, se il tempo lo permette, lo porti lo fai volare lì in Piazza dei Segni? No. In Piazza dei Segni c'è già una brutta esperienza, ne ho già frabbinato uno. L'ho fatto volare in alto, si vedeva piccolino, tutti guardando. E sono andato a riprenderlo mentre scendeva, deve essere la radiofrequenza non ce l'ha fatta a bloccarlo come doveva e ci è sceso a picco, si è tutto quanto frabbinato, diciamo noi. E non l'hai dovuto buttare. Ho tenuto i pezzi che si possono recuperare, il resto alla Mondezza. I pezzi che potevo recuperare, tipo le eliche, tutta la batteria, tutte queste cose qua, le ho recuperate. Però sempre ti dispiace perché sono soldi. Quando lo paghi poco, sono 62-68 euro. Questo che c'è adesso costa intorno alle 150 euro, capito? Non è molto, confronto altri modelli che ci sono in giro che costano molto, molto di più. Beh, già è un prezzo abbastanza abbordabile. Sì, ma quello che non mi aspettavo che avesse la scocca molle, capito? Pensavo che fosse quasi una cosa difettosa, che fosse un difetto, là. Invece lo sai che mi sono ricreduto, perché quando cade rimbalza molto, a tutti i sedi urti, bene, se si ammacca dietro la dieta, tu hai fatto il gioco, non è come l'altro che si spacca la plastica e poi si butti via. Ecco, lo genere c'è la plastica dura, e poi io, quanto li ho visti io, perché c'è un amico poi purtroppo è morto, e c'è quello in polistirolo, questo invece si autocostruiva, aveva i motori a scoppio, ma veramente dei motori grandi quanto un palmo della mano, belli veramente, guarda, e si autocostruiva in multitratto, ce l'ha fatto 4-5 modelli, uno più bello dell'altro, aveva una passione incredibile, lì c'erano milioni, porca miseria. Comunque, però in plastica morbida la verità non erano mai sentiti che esistevano. Infatti se guardi su internet sicuramente ci sarà una bella carrellata di modellini di modellismo là, tra aereo e elicotteri, c'è un bel po'. Ne avevo uno tanti anni fa, ma preso dai cinesi, la partita ti durava neanche 4-5 minuti, non ti dava neanche il gusto di provarlo, un elicottero. Non lo so perché lo avevo anche io. Cosa volevo dire? Niente. cinesi, ha avuto un 4-5 di quelli cinesi. Ma poi mi sono deciso a comprare uno come si usa perché tanto cosa. Tanto cosa fai? Ne prendi il tappo, spendi un po' di soldi, poi perché cosa? Ti si rompe un pezzo, non trovi il ricambio. Invece di questi qua, ti si rompe un pezzo, scrivi e ti mandano il ricambio a casa, capito? C'è tutto quanto, non è che devi stare a buttarlo via per un pezzetto. Lascia che ti dà Luca, qualche cosa l'ho fatta io quando si rompeva, cosa, anche la batteria, non ho fatto una io di un elicottero che c'è dietro che dura meglio quella che lo ha. Insomma, bisogna arrangiarsi con quelli dei cinesi. Se ne hai altri che hanno rotto, magari col tecnico lo fa da voi uno, ma se non hai quel pezzo non si trovano i pezzi. Oddio, tutti sono cinesi, lo sai, sono tutti cinesi, non è che ce ne sia uno che non sia cinese, di fatto sono tutti cinesi, la perfezione di queste costruzioni sono tutte cinesi. Sì, quello sì, solo che purtroppo quello è vero, quei modelli lì sono alla fine usa e getta, specialmente diciamo quelli hanno un difetto che il motorino che nella coda di dietro dell'elicottero è il primo che parte sempre. Molte persone che l'hanno acquistato hanno avuto sempre questi problemi, sono talmente piccoli quei mini motori, diciamo che ti coordinano la direzione dell'apparecchio, sono sempre i primi che si rompono quei mini motorini e poi è un problema trovarli e conviene guarda comprarlo da internet dove ti dia anche la possibilità di avere pezzi di ricambio, almeno diciamo continui sempre a utilizzarlo, quello sì, non conviene alla fine. Quando vai lì a comprare ti vengono 35, 45, 65 euro, spendi qualcosina in più, però c'è sempre la possibilità di avere i pezzi di ricambio quando ti cadono a terra. Sono molto belli anche 125 euro, ho comprato la busta dei carabinieri, tutto quello lì che mi piaceva, mi appassionava e sono riuscito a realizzare. Adesso c'è tutti gli apparecchi con l'ubile nuovo, cazzo, una figa. Tu non ce l'hai con tutto, è vero? No, non ce l'ho, vado in biblioteca, in paese. Campagna, lo posso utilizzare tutti gratis, anche internet. Giù in biblioteca? Sì, sì, tutti, ce ne sono 3, 6, 7, 8, 9 computer. E mettono la possibilità a tutti di usarlo anche diciamo internet. Sì, sono tutti collegati. Tu vai la mattina dalle 9 all'1 e la sera dalle 3 e mezza alle 7 e mezza, sempre 7 e mezza dipende diciamo dalle stagioni. E c'è la tua postazione, se non sbaglio dovrebbe essere un'ora a testa. Ma quasi sempre, non è che non ci sia mai nessuno, ci sono ragazzi la maggior parte. Se ti siedi nel combinativo, devi essere iscritto, non spendi nulla, non spendi assolutamente niente, ti siedi e fai le tue cose. Oppure su un grande tavolone ti leggi i quotidiani, tutti i quotidiani ogni giorno gratuitamente, ti puoi noleggiare dei libri, i libri puoi noleggiare un mese, poi se non l'hai finito lo rinnovi tranquillamente e poi basta scelta di DVD e CD musicali che li puoi tenere 3 giorni e poi li restituisci. È abbastanza ben coordinata alla fine, là, si sta bene. Per masterizzare quello che ce l'ha la. Sì, puoi portare la chiavetta, puoi scaricare, fare fotocopie, vedi le fotocopie le fai, le fare 5 centesimi. Poi c'è la chiavetta per dire, c'è una stampante già collegata, metti la tua chiavetta e direttamente stampi quello che ti serve. Quindi non hai bisogno di averla a casa, solo che se di notte ti puoi collegare, io di solito mi collego di notte, il sabato spesso in tardi, un bel tardi perché è l'unico giorno che lo posso fare, quindi domani, domenica, quindi se ti ho un'amica da chiacchierare, cosa? Mi fermo e faccio una bella chiacchierata. Io avevo un'amica che mi ha detto che lei non aveva mai parlato ore e ore così con una persona che con me si trovava un bel bene, era una persona altoloccata, una persona che aveva un bene di Giustamente era, non era di zona, era dei fuori. No, no, era di Sassari, ed è una persona, diciamo, molto in gamba, scherzava come ci trovavamo bene. Un bambino senza conoscere, ci scherzavamo al computer, parlavamo di cose serie, stavamo ore parlando, cioè non mi bastava mai, capito? Ma siete sempre in contatto, sì. Ma adesso no, perché sul Badu non ci sto più andando. Era sul Badu, io l'ho trovata, l'ho contattata sul Badu, questa persona mi ha risposto e gli ho scritto una frase, forse... di aggettivi, non lo so. Ho scritto: salve, posso avere l'onore di chattare con te? E lei mi ha scritto: pochi uomini hanno un lessico come il tuo, mi ha scritto. Pochi uomini hanno la tua gentilezza, eccetera, eccetera. Come fare a dire di no a una persona così gentile? Lo so, quello è vero, i tempi che corrono subito. Non c'è più il tatto di un tempo, vai, alla fine, con la, sì, con la gentilezza, con parole un pochettino più specifiche. Adesso è proprio alla me ne frego. E giustamente molte donne, la verità, già si trovano un po' in difficoltà, anche per queste piccole parole semplici, diciamo, che vengono un po' atterrate, no, della situazione, poi, dai, vedono un po' di valutare, già è buono. E poi non è mai scoperto perché lei non è più entrata in quel sito. Non è che avrà cambiato qualche altra cosa? No, non sono più entrato io, è diverso, non sono più entrato io. E mi ha anche detto, ti andrebbe di bere un caffè insieme a me? E tu perché gli hai detto di sì? No, io gli ho detto di no, che per riguardo alla mia metà non lo facevo, perché sono una persona seria, non sono qua. Lo so, fatto sta, e quando tu gli hai detto così, lei come ha risposto? Sì, ma prendere un caffè insieme non c'è niente di male, sempre a livello di amicizia. Ecco, vedi, potevi anche andare a prendere un caffè. Se ti ha messo già le mani avanti, solamente così, per fare una chiacchierata non c'era nessun problema. Ma lei era, anche lei sposata? Era separata. Allora potevi andare. È separata ed era una di quelle tipe in carne, ma molto carina, molto carina. In carne ma carina. Oh, vabbè, prendere un caffè non c'era nessun problema, è segno di amicizia, perché no? Non bisogna sempre pensare al male oppure pensare a quelle cose alla fine. O forse hai paura che ti potesse trasportare? No, non è quello. È il fatto che mia moglie non la pensa come te. Così è. Diciamo, dunque, alla fine ti è stato frenato anche da quello, ma vediamo in fondo, se tu sai benissimo come sei fatto, che sei tranquillo, sei di quelle persone subito che pensano al male, ecco, e tua moglie ti conosce in questo lato qua, dunque problemi non ne dovresti avere. Sei stato tranquillo, avresti fatto una chiacchierata, un caffè, perché no? E poi ognuno per la sua strada. Io gliel'ho chiesto e lui mi ha detto, tu immaginati il contrario della cosa, se un tipo mi dice prendiamoci un caffè insieme io ci vado, come la pensi? Tipo? E mia moglie mi ha detto, tu pensa se dovesse succedere il contrario, che un tipo dice a me per il caffè, tu cosa pensieresti? Mi manderesti? Ma alla fine, a fare sempre pensare al male non mi sembra neanche tanto giusto. Ma se veramente conosci la persona che è vicino da anni e ti fidi e sai benissimo come è fatta, che problema c'è? Ma mia moglie se io non ci può mettere la mano sul fuoco, lo sa come sono fatto, si fida un po' di me. Tant'è vero che io molte volte se capita un amico mi dice io che andiamo a farci un giro, io dico lì a me che sto facendo con un amico. Vabbè vai, e non mi dice niente, non ha nessun problema. Solo che le donne sono diverse, se dico con un'amica cambia la storia. E questo è vero, un po' di malizia c'è giustamente. No, ma anche io stesso, se da qualche parte, sempre al diritto, guarda, sono a tale posto con tale persona, per qualsiasi urgenza, c'ho il telefono appresso, chiamami che sto arrivando subito, per carità. No, anch'io non è che come tante altre persone, io sto uscendo, ci vediamo, chiudiamo la porta e se ne frega. No, anch'io. sempre, qualsiasi posto che sto andando, quando mi capita, l'ho sempre avvertita la verità, ecco. Paga, sì, sì, anche loro. C'è tardo il telefono, no, la verità io ritengo sempre, non li lascio mai su chi va là, dai. Sei sempre aggiornata, sai, salvo imprevisto, serve qualche urgenza, se non dove trovate, per carità, e anche io sempre col pensiero della casa, anche se sono per dire fuori, ho sempre la mente a casa, che con la scusa che non ci sono, se c'è qualche urgenza, è ben normale alla fine, non sono tutti così comunque. Quando si dipende sempre dal rapporto che uno si costruisce negli anni e giustamente li comporta di conseguenza. Vabbè, allora è vero. Diciamo che un rapporto è sempre un po' di libertà ci vuole, non dico tantissima, ma un po' di libertà ci vuole, non si può essere. Non puoi affogare il rapporto, stare sempre appiccicato e cose, ognuno c'ha, per dire, adesso stasera a casa mia ci sono le amiche di mia moglie, se l'ho organizzato una cena, mi ha detto, tu non ci stai, adesso siete tre amiche, dovete parlare le cose vostre, io me ne sto alla parte, tranquillo, sono andato a salutarle e via, e loro sono lì che fanno la cena. Buono, vedi, tutte donne alla fine, l'unico uomo sei tu, giusto? Capa. Però alla fine giustamente la libertà ci vuole, dai, è giusto anche così. Ho qui in casa, però sai, mi fa piacere anche quando invitano a lei e cose, io non mi prometto queste cose, perché le due amiche sono tutte e due, vabbè, una è fidanzata, l'altra è separata, quindi diciamo che sono libere perché il ragazzo di una lavora fuori e l'altra è separata, quindi sono organizzato questa cenetta e via, lasciatela fare, non è che cavolo, se devono andare in pizzeria la lascio andare, tanto si porta anche a Marcolino molte volte, si porta a mio figlio, però se loro decidono di fare queste cose, così sono io, quando decido di fare una pescata con un amico non me ne impedisco, io ho tanti amici che dicono come faccio, mia moglie non vuole, cazzo non vuole, ma buffonente sempre. No, per carità, no, a questi livelli no, anch'io, diciamo, quelle poche volte giustamente che c'è mia moglie che ce la fa uscire, anch'io lo stesso ho sempre cercato di accompagnarla in macchina, accompagnava in macchina e poi giustamente rientrava a casa e la facevo svagare. Poi quando lei mi richiamava per andare a prendere, scendevo e la riprendevo senza problema. È normale che giustamente anche loro un po' di libertà devono avere al di fuori della casa, della famiglia, perché giustamente si devono sfogare anche loro, è normale prendere un pochettino di aria, e se no guai, guarda. Quando vuole cenare con le amiche dico, tanto me le immagino di cosa parla che ci fate a pezzettini, che è più piccolo e più grande è quanto una briciola di pane, fate a pezzettini maligni. Vabbè, sicuramente nel senso buono, dai, e poi parlare di Maria De Filippi, sai, delle solite cose da donne. Di beautiful. Allegria. Con vetrine. Poi, non crediamo che ancora esiste, vai. Tu pensa una cosa, che beautiful esiste da quando noi eravamo fidanzati. Siamo stati 7 anni e mezzo fidanzati e 21 anni siamo sposati. Io mi ricordo che comprai il televisore di quelli piccolini a colori, perché il giorno che c'era beautiful la sera lì non volevo uscire, se no allora per uscire per comprare questo televisore che ce lo guardavamo lì al quadrato in macchina e mi doveva assorbire tutta la maradam per stare scena lì. E ascolta, non sta ancora seguendo beautiful? Tanto è meglio, quando io mi ricordo ero piccolo, la verità. Non so quanti anni poteva avere, adesso proprio non mi viene in mente, penso 15 anni, è possibile. Penso 15-16 anni, penso proprio di sì. E mamma se lo guardava, e come se lo guardava, adesso non è anni che non lo guarda più, ma comunque mi ricordo questo beauty, ero piccolo, quando era a casa di mamma, non neanche fidanzato, e se lo guardava a mamma, dunque quei 20 anni buoni, c'è come telenovela. Mia moglie dice, ha pensato che questi attori sono cresciuti insieme a noi. Beh, alla fine sì, alla fine se guardi bene li vedi, li stanno invecchiando, sì, giorno per giorno viene la loro trasformazione, è vero, stanno invecchiando, sono sempre gli stessi, però sicuramente è la telenovela più lunga sulla faccia della terra è questo Beautiful, però bisogna vedere se è anche seguita. È seguitissima, ma come fanno a inventarsi tutte queste storie, intrigli e chissà di data? Alla fine dovrà avere una fine questa cosa, boh. Tutta piena di intrighi, di amori, di questo, di corna, di cazzo, un casino, va? Non si ricomprende più nulla. No, immaginati che se sfortunatamente uno degli attori principali, diciamo, muore per morte naturale, allora già da lì un pochettino la situazione si ferma, Beh, sostituire una figura che già conosce bene la situazione è un po' difficile. Devi mettere un'altra già che sa tutta la storia e deve imparare di tutto, è normale, no? Ma comunque tuttora 100 vetrine, Beautiful, con uomini e donne, Maria De Filippi la sera, quello, vabbè, io dico, quello di Maria De Filippi che mi piace di più è quello che danno stasera, come si chiama, quel programma lì, quello lì mi fa, però mi fa commuovere troppo, sabato scorso cazzo in un lago di lacrime, ma trova franco, invece di godermi un po' di allegria mi sta facendo del malumore questo programma. Sì, c'è fa come per te quello era. Buonasera, buonasera. Quel programma c'è scritto c'è Falcone per te. C'è posto, non mi veniva il nome. E comunque, quello lì diciamo, cosa perché? Perché non vedo reale, dai, non vedo una cosa vera, non come tanti programmi che sono tutti quanti preparati, fatti, quelle sono tutte lacrime vere, dettate dal cuore proprio. Guarda, io non lo metto in dubbio, la verità, non metto in dubbio che potrebbero essere delle vere lacrime. Un minimo di verità io spero che ci sia, però quel programma sinceramente a me non mi piace e non mi è piaciuto il mio modo di vedere, perché se giustamente nella vita chi è che non ha problemi, ma che devi stare lì a sputtanare in tutta Italia i tuoi problemi tra padre e madre, figli, cugine, fidanzate e compagnia bella. È come che venga preso come ultima risorsa per cercare di risolvere i problemi, mettendo in mostra i tuoi problemi reali alla faccia di tutti, e alla fine la riservatezza dov'è? È quello che a me non piace come programma. Poi è troppo caramelloso, non lo so, io lo vedo squallido, la verità. No, io a me, te l'ho detto, forse perché sono una persona molto sensibile, riesco a immedesimarmi molto nelle situazioni e quasi le vivo, capito? Poi ci sono delle cose magari che rispecchiano anche delle cose che hai provato tu, eccetera, eccetera. Sono cose molto reali. Io ti dico una cosa, Antonè. Avevo solo un amico, uno solo, amico vero. Tutte le altre amiche erano tutte donne, perché loro dicevano che parlare con me le rassicurava, le dava un certo, una certa rassicurazione, si trovavano molto bene a parlare con me. Proprio perché ho questa sensibilità che mi fa entrare nel problema della persona e riuscire non a risolverlo, però a cercare di consigliargli qualche cosa di buono. È perfettamente d'accordo, questo dovrebbe essere il tuo carattere, come sei fatto, quello sì. Vediamo un po' che l'ho messo da parte a Pomponio, a vedere se anche lui è un trappa lacrime e se guarda anche lui Maria De Filippi. Tutto quanto a lacrime guarda stasera. Noi siamo digerire, ho mangiato mezzo porcetto e non ce la faccio, adesso vado a lei e gli chiedo che cosa ci può fare per digerire. E cosa puoi fare? Ma caga, Antonè! Tutto per quello devo andare a mandarla a cagare. Adesso aspettate il momento opportuno quando entra. Dopo gli telefono dico, guarda, devo andare a cagare perché non ce la faccio a digerire. No, è quello che un po' di digere, forse è meglio, è che la pietà fa male. I Maria Filippi, già fa bene Maria Filippi, ha voglia. C'è un giorno che non fa nulla quella, è in bianco. Lui di più, a me mi pare che gli piace il ballerino. Che la Maurizio Costa te lo fa dormire in un altro letto, l'ho letto sul giornale perché è russa. E lui col ballerino fa zicchetta. Fa zicchetta che bomba a mano quella. Tranquillo, tranquilla. Tanto sono 10 anni. Tra lui e lei sono milionari. Maurizio Costa è miliardario, adesso che è milionario. Certo, mi ha detto lui. Mi piace tanto me. Ehi Antonetti, volevo dire, ma ogni volta se ha mal di faccia, ha diarrea, poi ma anche subito deve correre in bagno, ma ha sempre problemi di stomaco. Io ho mangiato troppo poco fa, capito? Poi stasera sono andato dall'amico mio che mi sono scelto la Geggio e c'è la fotografia di Gesù Cristo da una parte e l'altra dall'altra parte invece c'è la fotografia della Madonna, stampata nel legno. E cosa te ne fai? Sì, sotto il letto me ne metto, non cosa me ne frega a me, basta almeno una a me. Meglio prevenire che curare, che in periodo di magra bisogna pigliarlo, c'è una fretta speciale adesso, capito? Gianni, cosa ne pensi? Boh, Antonello è un po'... fa un miscuglio di cose, non si capisce più nulla. Ma cosa l'hai comprata, Antonio? Ah, l'ho guardata, cosa hai comprato, Fucazzano, non ce la fai. Però sento da quell'amico mio che vende questa roba qua, e mi ha fatto vedere questa roba nuova, c'è la fotografia, una di Gesù Cristo, e l'altra della Madonna. E proprio da dove c'è la cassa, capito? E io gli ho detto, bubù, a cosa siamo? E non so tutti altri, c'è qualche credente, io sono credente per dire. No, io no. Io non vado in chiesa, ma sono credente. Ci andavo prima tutte le domeniche, adesso un po' sto disertando. Da quando è morta mamma ha avuto una crisi religiosa e bubù, non sono più lo stesso, là. No, no, io la verità, da quando sono nato non ci ho mai creduto, i miei genitori all'epoca sai, negli anni 80, ti costringevano ogni domenica ad andare in chiesa, bello vestito, lavato e profumato, e quando rientravi dovevi ripetere, diciamo, le parole del prete, per carità, ma io ho sempre disertato e no, non ho mai digerito la verità alla chiesa, sì, ci andavo, sai, per le persone, sono persone tranquille, meno male, lo usavo come compagnia, ecco, ma proprio in sé come chiesa non ci ho mai creduto la verità, no. La verità, no, non me lo sono mai sentito dentro. Beh, ognuno, io rispetto le idee di tutti, ma io ho avuto l'educazione religiosa, l'ho provato avanti, ho fatto il lupetto, ho fatto il chirichetto, il lupetto, lo scout, l'esploratore, sono stato alla relazione cattolica, ma a livello anche di compagnia, di coso, io frequentavo molti ragazzi e ragazze, quindi mi trovavo bene anche su quello. Guido via, facevo lo scout, ogni tanto una passata. Non ti credere, sai, no, da lì no, in quell'ambiente lì no, da altre parti sì, ma in quell'ambiente lì proprio, dico la verità, c'era una ragazza che tu ribigia, te lo ricordi? Ha voglia, è innamorato di due ragazze, se ti ricordi, al monte, erano le nipoti, diciamo, di Vittorio, se non ricordo male, che voleva con la baracchino. Ci hanno arrivato di giù, però non c'era il ponte nuovo, c'era una specie di discesa strana, non c'era nulla, figurati tipo. Poi io prima di essere sul ponte nuovo non me lo ricordo, lo sa. Comunque era innamorato per il bicio di questa questa coccinella, diciamo, non coccinella, era proprio scout, e lui era innamorato di lei e lei era innamorata di me. Però a me non me ne fatti nulla, perché io ho già fidanzato, c'avevo già la ragazza e tutto qua. Poi la mia ragazza l'aveva saputa questa storia e non mi aveva più fatto andare. Praticamente mi aveva impedito di andare e ha detto, fa una scelta, o vai lì, o sei con me o vai lì. E ho detto, ma io voglio fare tutti e due. No, non è possibile, perché c'è la ragazza che ti sta presso e a me non mi sta bene. E allora ho dovuto mollare. Anche a me è capitato per questo. Facciamo tutti e due a letto, no? Io ho detto, triangolo no. Io ho detto, no, a me non mi frega proprio niente. Ma c'è una, ho detto, basta. La verità. Ne hai più tu una, ne hai mille. I tempi quelli. I tempi. Quando Gianni Caldo era l'azione. I mille no, là. Comunque, gli aussi mi sono divenuto davvero, la verità. Perché allora... c'era un sacco di giro, di CB, di ragazze CB, e ci rimetti bravo, ma comunque sia, mi sono divertito parecchio. E non mi sono, la verità, a me questo uno dice, ci mettiamo assieme, no, sarà in accavo. Tu hai detto, sono ancora bello vergine, ho detto, sono tranquillo e mi diverto. Olli, una volta ho dato l'appuntamento, te la ricordi quella che faceva le poesie, che adesso non mi ricordo come si chiama, che c'aveva sempre che, ma parlava sempre con me la notte. Io gli ho mandato l'appuntamento a lui, alla discoteca, non me ne biombato un CB con la maschera da carnevale. Sì, più di una ossa ce n'era, così. Ui, ui, ma, io... incredibile la verità, c'è un sacco di gente allora, ci diverti in bar, c'è pieno di donne, pieno di ragazze, adesso non ci manca un cane addirittura, figurati tu, oramai sono tutte fuggite le cibine del baracchino, tutte fuggite, non c'è più nessuno purtroppo, pazienza, dobbiamo completare tandemi, dobbiamo fare 4-5 quello che siamo, e basta, non possiamo fare altro. Ma io mi accontento, io non ho bisogno di presenza femminile, non me la fa più nulla. Ce l'ho qua, se mi apri io, se vado fuori, ci sono tutte le amiche di mia moglie. Non c'è problema, no, il baracchino mi interessa. Ma ho bisogno di troppo con la mia fidanzata per le... quando ti fai il baracchino a tutti i bignali, dopo tu ti sei andato a dirgli a una persona che io c'avevo già la ragazza. Io? Mi ha telefonato stamattina una volta e mi ha detto bravo, bravo, complimenti, tu ero con Alessio, cose in piazza, ti abbiamo visto, comunque è carina la tua ragazza, la figura. Non si è mai detto che la tua ragazza è questa. Lo sai quando una volta siamo andati in piazza, ti giuro, guarda. Era con la CB. Eravamo in quattro, c'era Marisa, c'era Roberta, c'era Chetti e c'era... come si chiama l'altra? Questa non l'ho più vista. Eravamo in cinque ragazze erano qua. Lì in Piazza d'Italia. Se sono fuggite tutte, sono parlate, la verità, perché io allora c'avevo il tirico di ambulanza e sono parlate. Quindi, no, la verità io non ho detto niente a nessuno. Ma non è un discorso più bello, ma con chi ti proprio la potevo vedere, quindi è impossibile aprire una cosa così. Se mi dicevo bene, magari potrei anche crederci, ma mi sembra strano, la verità. Oh, ma detto pure come ho vestito, se stavi bene, stavi bene, come di vestito, questo e quell'altro, e poi anche l'altra ragazza è bella, complimenti, comunque me lo potevi dire che è la ragazza, vabbè, adesso sarebbe detto, tu stai dicendo fesserie, se chi te l'ha detto, forse ha pensato che fosse la ragazza, ma non è così, sta cercando di camuffare. Scusate un attimo, vengo subito che vado in bagno a urinare. Chiaro però, me, chiaro. Ma fatelo addosso, altrimenti. Mi dice a cambiare l'acqua e le olive. Beh, ciao, ascolta, ciao, Antonio. Ti ricordi di Lucio Lurida, tu, un vecchio CB? Il nome attivo te lo ricordi come si chiama? Guarda che era sposato con Giovanna Pedino, anche dei CB. Come si chiamava il nome attivo, te lo ricordi? Aveva un'agenzia di viaggio una volta in via Delante, su. Di Lurida conosco solo a Vela 1, Vela 2. Che era quello della Croce Ferre, che mi ricordo io. Poi non, questo Lurida non ce l'ho presente, lo sai. Vabbè. No, perché volevo sapere, cioè non mi ricordo il nome nativo della frequenza che usavano. Tu Antonio, te lo ricordi? Sono ricordato tutto io, proprio la verità non mi ricordo più. Oramai ho vecchi CB che è difficile, guarda, ricordare tutti quanti i nativi, di che c'era, di non c'era, bisogna cercare qualcuno di quell'era lì in modo di ricordare tutti quanti i nativi la verità, perché la verità non me la mento più. Grazie, diavolo. Si è sentito. La preghiera sta dicendo. Ah sì, non l'ha sentito. Allora, stai guardando il televisore. Ma senti, stai guardando il televisore e pare che Filippo si sta bestemmiando. continuate, vi ascolto. Ciao Gianni, ciao Antonello, e ciao un altro Antonello anche, sei avvietato, ti ascolto, riprendi pure gli altri, già. Ciao, comunque Rixalo, ti avevo voluto aiutare, ma volentieri, ma non mi ricordo. KK, Alessio, c'hai un po' sottofondo. Io so. Senti. Perché ti muoverà a te? C'era la compagnia di Filippi. Io sapevo, dice qualche che ti portano lì la verità. Cavagava Pugliaia. Come? No, a più di un cavallo se faccio. Ehi, adesso sono arrivato. Ti ho preso di mia nonna che diceva quando ero piccolo per fare la pipì, Gianni fa la pipì lunga fino a Milano. Da quanto durate così? No, io mi stava scoppiando la vicino, non ce la facevo più. Questo rigagnolo che scendeva per la via. Com'è che sta combinando? Ho detto che si è alzato e stava ridendo, ma è successo? Perché la sua metà in sottofondo si sta dicendo una parola dolce. E contro chi? Contro Antonello? No, l'omaia di Filippi ce l'aveva detto, ma studiamo! Via! Un'altra fillata, ioi! Ci sa che mi date la mano tutti e due? No, io non ne guardo. Fa vedere con mal umore, lui mi fa pensare troppo, lui. Che sembra così, ma ti lascia dentro qualcosa, capito? Perlomeno a me lo fa. Ti lascia dentro qualcosa, quando lui dice altre storie, come si fa a non parlare a una madre, a non parlare a un padre, è una cosa allucinante. Io mi sono fatto un mese che piangevo andando a lavorare quando è morta mia madre. Io sono pienamente d'accordo su quello, però guarda che ho visto anche dei genitori che i propri figli, guarda, lascia perdere, ne hanno trattati veramente di merda, non credi, ci sono genitori e genitori, attenzione, bisogna dividere un po' la situazione, ho visto delle famiglie che i propri figli trattavano come cani, non come figli, come cani, giustamente poi i figli quando diventano grandi e diciamo mettono un po' di sale e zucchero in testa e riescono a ragionare con la propria testa, ne mandano in quel paese anche i genitori, cioè di quei genitori bravi che ti danno il cuore e si vede, altri invece che se ne fregano dei figli o ne danno neanche la possibilità di scegliere la propria vita, alla fine dopo anni di sofferenze, di giramenti di scatole arrivi anche a quello e non credete che perché le persone come vengono prese dai genitori, c'hanno la perfezione, devono sempre essere rispettati, attenzione, c'è anche da guardare quello, ci sono dei genitori che proprio i genitori non ne sanno fare. Beh, il mestiere del genitore è un mestiere molto difficile, però ti dico una cosa, che se uno non è contro natura, genitore è genitore, c'è poco da fare. Io lo vedo come un essere superiore, un essere diciamo che ti insegna tante cose, che ti educa, ecco come lo vedo il genitore. Poi forse perché non ho mai conosciuto i genitori, come stai dicendo tu, ce ne sono, io so che ce ne sono, però una madre senza una madre, per quanto male faccia, un figlio dovrebbe sempre perdonarlo, penso che sia così io. Allora, se tu noti bene, se noto, noti bene il male di Filippi, quelle poche volte che l'ho guardata, se noti bene, la madre ha sempre rifiutato la, diciamo, la compagna del proprio figlio, perché secondo lei non è la persona giusta. Allora, se un figlio quando inizia a essere, avere 18 anni, 20, 30 anni, 40 anni, è già una persona matura che deve per forza affrontare la propria vita e le proprie scelte, un genitore non deve stare lì a rompergli le scatole perché secondo lui quella donna non è, è adatta al proprio figlio. Ma che discorso è? E lì cominciano i problemi, litigi e divorzi anche per questo fatto qua, perché la maggior parte dei litigi familiari sono sempre le madri che non accettano mai le compagne dei propri figli. Quello lì è una scelta sua personale, dunque lei deve rispettarla, è sempre quello il discorso, lì sbagliano molto le madri. Io non metto in dubbio che possono essere protettive, ma devono anche capire che il proprio figlio della sua propria vita deve anche prendere le sue decisioni. Dunque in quel momento lì il genitore si fa da parte, per forza deve essere così. Invece no, la maggior parte dei litigi è sempre per quel discorso lì, pur essendo che la madre è sempre la madre e va perdonata, però deve anche capire che il proprio figlio deve affrontare la sua vita con la compagna, che le vada bene oppure no. Poi su questo ti posso rispondere io. Io una volta al cimitero, sono andato al cimitero e ho trovato questa amica che stava piangendo sulla tomba del padre, ma piangendo, però il padre era morto già da tanto. Il che l'ho vista, l'ho riconosciuta e gli ho chiesto che cosa avesse, e lui mi ha detto, aveva ragione mio padre quando mi diceva che mio marito non era da sposare, che non era l'uomo per me, che questo o quell'altro, io resistevo, me ne ero andato anche da casa per sposarlo, e poi guarda adesso com'è, ubriacone, si ubriaca, mi picchia i figli, ecco la risposta. Vabbè, ma per carità, giustamente un figlio deve affrontare anche la realtà e difendersi giustamente da tante occasioni che si propone la vita purtroppo. Ma per quello i genitori devono mettere i bastoni tra le ruote nelle scelte dei figli quando sono maggiorenni. Al massimo gli possono dare un consiglio, poi il resto tocca alla persona che ormai è adulta e sa come si deve comportare. È sempre quello il discorso, che abbia ragione oppure no, quello sì, veramente d'accordo, però è sempre il figlio a prendere l'ultima decisione. Ascoltare i consigli, sì, quando è maggiorenne è padrone della propria vita, in quel caso lì i genitori devono mettersi da parte, cose che molti genitori non fanno perché le persone sono già maggiorenni. Ecco, non è che quando mai che un genitore deve scegliere al proprio figlio o la propria figlia il compagno e chi la gradi a loro, che discorso è? No, per lui no, assolutamente, infatti io ti dico, guarda, io sono una di quelle persone che con mia madre avevo un rapporto d'amicizia, ma eravamo più amici che genitore e figlio. Mia madre molte volte quando io gli confidavo le cose mi diceva, Giacomo, secondo me tu stai sbagliando, e quando mi diceva che stavo sbagliando io mi incazzavo come una belva. Però sempre mi diceva, secondo me è meglio che tu faccia così, poi vedi tu, secondo me stai sbagliando, comunque vedi tu quello da fare. Io secondo me ti do questo tipo di consiglio, poi vedi tu, ecco che cosa. E mia moglie mi diceva, secondo me tua madre ti lascia troppa libertà di scelta, perché la madre era più mussoliniana, diceva devi fare così e basta. Vabbè, ma quello erano dei tempi purtroppo, sa com'era la mentalità. Però io no, un giorno quando mia figlia sarà più grande, maggiorenne ed è padrone della propria vita, io non posso assolutamente impedirgli di, se avrà un domani un compagno, di impedirgli di uscire con lui perché potrebbe essere antipatico per me, giusto per lei, assolutamente. Però se capita nel caso in cui, come hai spiegato tu di quella ragazza, che il proprio marito è ubriacone, allora in questo caso qua giustamente il genitore in quel caso lì deve intervenire, pur essendo il figlio maggiorenne, in questi casi che si trova in difficoltà, perché alla fine il genitore lo fai. Dal momento in cui metti al mondo tuo figlio, finché campi, devi sempre proteggerlo, anche se è una persona adulta. In quei casi lì, quando un figlio o una figlia viene maltrattata, è logico che devi fare il genitore, ma al di fuori di quello che le persone si comportano bene o piccoli litigi giustamente che sono le coppie, è logico che il genitore deve farsi da parte, ma non per quello deve scegliere il proprio compagno o compagna per i propri figli, assolutamente. Sono i figli che devono decidere e valutare la situazione, perché devono imparare, poi purtroppo noi domani no, non ci saremo, e devono imparare già come comportarsi. E certo, quello lì lascia in effetti del figlio se è maggiorenne, però il genitore un po' di gelosia ce l'ha sempre nei confronti sia della figlia, specialmente il genitore maschio della figlia ha sempre questa gelosia, questa diciamo possessività anche tante volte. Io non sono fatto così. Mia moglie per dire dice, ma è meglio che ti cerchi un uomo che abbia un buon lavoro, che ti dia un avvenire sicuro. E dove c'è scritto di dare un avvenire sicuro? Secondo chi trovi, prende, ti mette le corna, se ne va da casa, e anche se c'è un bel lavoro te lo sogni. Quello già è vero, per carità. Bisogna valutare le situazioni, è normale. Anche lì bisogna essere, andare alla ricerca della persona giusta, quello vero, pienamente d'accordo. Antonio non c'è, se non sbaglio aveva fatto una passata importante. Oh, Pugno! Invece la persona così, può essere anche l'operaio, nel caso che sia una brava persona, tutto lì, perché tratti bene la mia figlia. Claudio, oggi lo si è fatto sentire, strano. No, stasera devo andare sicuramente a Portatello, se quando vado lì vanno in pizzeria, c'è il fratello, c'è la madre, lì tutti quanti, i parenti suoi sono lì a Portatello, scappate da Alghero pure, vabbè. Quando scende dal fratello se ne vanno sempre al ristorante, in pizzeria, cose, vanno a mangiare insieme. Ah, di libera uscita oggi, dai, per quello che non c'è. Paga. L'ha accennato l'altro giorno, sabato me ne andrò a Porto Torres con mio fratello, andremo in pizzeria sicuramente. E già va bene, almeno si svaga un pochettino sempre a casa lavoro, sai che dovrebbe lavorare anche domani, meglio così, e niente di particolare. Comunque tu verso le 9:30-10 dovresti salire su così, comunque il tempo domani cos'è, bello? No, non ho ascoltato ancora sinceramente. Oggi già andava bene, potevo anche andare in moto oggi, invece ho chiesto, metto c'è il vento, ho detto vabbè non le prendo, invece poi sono sceso in macchina e il vento non c'era più. Un po' di fresco già c'è la sera, è la verità, non fa più a fare maniche corte, un po' devi iniziare a coprirti, quello sì. E via, niente di particolare. C'era moltissimo traffico a Predanieta, è la verità, molto. Molta gioventù così allo sbaraglio lì in Piazza Castello e basta, poi il resto era vuoto, non c'era nient'altro a Sassari. Antonio, ma di Radiala, andato se mi viene in mente adesso. Ah no, stavo pensando anch'io oggi, tocca andare lunedì e provo a vedere se, sperando. No, lì con lì mi manca, dopo quello ho fatto tutto quanto. Lunedì mattina faccio una piccola commissione, vediamo un po'. Ne c'è fuori e poi mi avvicino lì a bandiera gialla. No, sai perché? Perché qua c'è un bel giro che distribuisce i pasti nelle scuole, eccetera, eccetera. Sì, l'avevo sentito anch'io, sì. Scuole, se non sbaglio anche ospedale, dipende, è un bel giro, è vero. Prova a chiedere lunedì, vediamo un po' cosa ne c'è fuori. Ma è che guida il furgone, non fa sentire. Ho guidato per anni. Anzi, ho guidato per anni il Turbo D 3510. Un collega che quando manco io non lo prende mai sul come che guido io, perché è un bel alto, un bel grande. E ha detto che viene il panico. Quando si deve sapere il panico, prende la sua macchina e fa le cose e con la sua macchina avanti di macchina. Io c'entravo abbastanza di vecchio con quel furgone che andava a consegnare, che poi purtroppo secondo come la strada lo sai benissimo che specchietto retrovisore non ce ne hanno e devi giostrarti con gli specchietti laterali, e me la facevo tutta a retromarcia anche via Torritana, tutta a retromarcia quando poi non riuscivi a girare oppure quando hai finito di scaricare c'erano problemi di traffico, tutta a retromarcia senza nessuno che facesse manovra. Oh, e poi come lo giostravo bene, ho guidato per 12, no aspetta, da 90 aspetta, 94, dal 97 sino al 2011, vedi un po' tu, sempre guidando. Matti, buonasera. Ciao, saluto Unicef 3, Salvatore da questa parte, saluto di tutti quanti. Ehi, Salvatore. Carissimo. Tutto bene? Ma siamo usciti stanotte. Ho appena subito un esproprio proletario. Hai subito? Ia. Poi mi ricordo che quando stavamo in piazza gli esproprio proletari facevano nei ristoranti, nelle pizzerie. Invece stavo guardando un bellissimo concerto e il resto della mia famiglia mi ha estromesso e ora stanno guardando un film. Che lo diciamo sono sfratto. Immagini. Che concerto stavi ascoltando e guardando? Un 2009 di Vasco Rossi, il live di Bologna. Hanno fatto bene, perché Vasco Rossi lo odio. No, siccome l'avevo scaricato tempo fa, l'ho scaricato nel mio hard disk dove c'è tutto quanto dentro, i film, i cartoni, i concerti, eccetera, eccetera, e non l'avevo mai visto. E quindi, siccome loro stavano cenando, allora ho attaccato l'home theater e stavo ascoltandola e vedendo, è veramente bello, è bello, è travolgente. Ma io credevo che sei di un concerto di Mozart, qualcosa del genere, allora sì, no, se di Vasco Rossi hanno fatto veramente bene. Una mia amica mi ha detto che è andata a Roma una volta per il concerto di Vasco Rossi e lei non fuma né niente, ha detto che l'hanno drogata con gli spiriti che c'erano attorno, le ragazze che c'erano. Dice che se la faccia uno dopo l'altro. Vabbè, io a casa non so di quei problemi. Vabbè, tu ce la pianta a casa. Lì, veramente, una ventina di euro. Ok, no, prima ho visto invece, questa volta tutto, un live di Bon Jovi. Le fuse si cacca, si so. Arra, Selimba. No, è piacevole vederli. E anche fumarla, perché no? Vabbè, organizziamoci qualche giorno, facciamo una cortesia, facciamo una cosa. Secondo me domani dobbiamo incontrare gli iscritti a piantare i segni. Possiamo organizzare lì, cosa ne pensi Gianni? Ma cosa, la fumata? Allora? Io ho smesso di fumare da quando avevo 19 anni. Vabbè, ma se due tiri di erbetta già non succede niente. Meno Salvatore. Non mi sembra il caso. Adesso non fare... ci porti un paio di foglie in quella pianta che c'è a casa. Ma foglie no, il fiore ci vuole. Beh, mettetevi d'accordo, posso portarla a terra. Che bagnato un po' nell'olio di ascici, dopo che fai lo spino lo bagni l'olio di ascici, c'è ancora me. A me ricordo di esperto, però c'è cioè, da 19 anni che non fumi più, guarda un po'. Non fumo sigarette mi, io se capito. Ah, e allora ci diamo una mano, va bene, vai Salvatore. Tu porta la materia prima, poi tra cartine e sigarette già non c'è problema. E qualche bottiglia di birra fresca fresca. Oh, fatta è la storia. Bellissimo. Allora, solo quelle esistono. Andiamo bene, bella cultura generale. Rulla giù, ti gusti. Allora, cominciamo a rullare. Facciamo fumare a Pomponio, a... Se ne immagini, a Leoncino, ui ui, due risate ce l'avremmo fatto. Due mesi mi dai a vero, mi pare molto. Guarda, c'era una cioffra, sarebbe successo che guarda, mi si ricordato per vita. Ma pare mai fumato. Io la verità, sì, non fumavo la verità, non avevo mai provato, ne vedevo tutti che fumavano proprio, ne fregava niente. Poi quando ho fatto il militare, nel 93, a quell'epoca non fumavo, neanche sigarette. Eri tutti in camera a fumare, eravamo i 24, ero l'unico che non fumava a finire la verità, le cane, mai toccato. Faccio un mese, due mesi e provo, se no non mi interessa, lascia perdere, non me ne frega niente di queste cose. Dai, fatti due tiri, faccio due tiri, e incomincio a ridere, mi sono mai divertito con le tante in vita mia. E all'epoca, quando capitava, due tirotti volentieri me li facevo, poi non me ne è fregato più niente. E la prima volta avevo 18 anni, sì, ti dico che mi sono veramente divertito. Io ti dico una cosa, che quando tu... perlomeno a Sassari succedeva così, quando tu entravi in un giro dove fumavano tutti, poi c'era sempre quello che si faceva l'acido, c'era quello che magari si buttava pure perché non gli bastava più, e allora il giro diventava pericoloso, ma un bel pericoloso, perché a me una volta, per dire, una ragazza mi ha offerto... detto se andavamo a farci un trip insieme e poi mi faceva l'amore con me. E c'era un'amica mia e mi ha detto lascia perdere, l'ha preso, ma con uno schiaffo questa amica mia, non ci andai, fuma questo un schiaffo. E nel momento mi sono incazzato, però poi adesso se ci penso non ringraziare. Per carità, anche io ho visto gente che tirava, trip, poi l'ultimo ho visto questo poker, poi vabbè, quando lavoravo in discoteca queste cose c'era molto più giro lì, ma vedendo queste persone come si trasformano, che sbaffano, che smascellano, guarda che fanno veramente schifo solo a vederle, basta guardare così con le persone, te ne passa proprio la voglia anche di provare, mai. Sì, mi ho fatto questi tiri lì quando lavoravo, quando ero lì al militare, poi basta. Poi qualche occasione, ma molte, molte anni fa, ma così per caso, due tiri e basta. Poi per il resto mai, non me ne è fregato mai niente la verità, guarda, meglio evitarne. Ti stavo dicendo, io mi ricordo una volta proprio lì a Ossi, mi sono trovato con questo amico e mi ha detto dai che andiamo a ascoltarci un po' di musica, non tanto a ballare quanto a starci tranquilli con un bicchiere davanti parlando, stando in discoteca così, poi siamo fatti anche quattro salti e mentre stavamo ballando abbiamo visto questi cinesi che avevano gli occhi in gloria, siccome noi facciamo servizio ambulanza tutti e due, questi qui ci hanno fatto qualche trip. Poi andiamo in bagno insieme con questo amico e troviamo praticamente in overdose due cinesi, viola, cazzo abbiamo dovuto anche massaggiare tutti e due, cazzo perché stavano crepando, erano in terra, viola, con le dita viola, tutte quante, adesso se l'hanno fatta insieme e hanno preso estasi e roba del genere perché avevano gli occhi anche in gloria quelli lì, ballavano e non sapevano manco dove stavano ballando perché avevano la testa da una parte e gli occhi dall'altra, le gambe dall'altra. No, per carità, guarda. Io questa gente, ci ho visto, detto, ci ho lavorato in mezzo perché ci ho lavorato 10 anni a bruciare la siesta e ho visto veramente tanti uomini e donne che facevano veramente schifo, più che persone erano zombie. La verità, e ogni sabato li vedi lì sempre fatti, no, sono sempre dato la larga, metto da una parte perché non mi piacciono proprio queste persone. Avanti Salvatore, raccontaci le tue esperienze droghine. Senti un po' fuori tema. Dimmi piuttosto, quindi domani salite? Eia, porta quella cosa, sì. Perché ora salite? Sono capito male, 9:30, 10, confermi Gianni? E io sì, non lo so poi se gli altri siano, salgono tutti, non lo so. Claudio mi pare che stia lavorando, non lo so, magari io salirò, poi sale anche Giuseppe sicuramente. Non lo so se anche Claudio, non te lo so dire, però lui lo sa che noi ci troviamo a San Felice domenica mattina, quindi facciamo una chiacchierata. Sì, guarda che ho sentito Claudio, detto che verso le 10:30, 11, appena finiva di lavorare saliva direttamente di 10:30, 11, quell'orario lì ha detto. E vabbè, io mi compro il giornale, me ne vado lì a leggerlo sempre, ogni domenica. E cappa. Beh, domani se non anche una, se il tempo assiste, cerco di fare un salto, così ci vediamo in verticale. Paga. Oi. Cappa. Quindi oggi ti hanno sfrattato, Salvatore. Mi sa che organizziamo qualche cosa, tanto ci lasciamo stanotte e andiamo a fare il bagulo. Ah, io il bruttare è aperto stanotte. Salvatore, ci vieni? No, queste cose le lascio fare ai ragazzi. Beh, non sei ragazzo anche tu, e già non è un ragazzo lo stesso, che problema c'è? Sei ragazzi, tranquilli, pacifici, basta lasciare un bigliettino e già torniamo presto. Buonasera. Presto domani mattina. Oh. È stato un break. Buonasera a tutti. Massimiliano, dai, unisci anche noi, stiamo andando a gustare a Giulia. Come dice Salvatore, lasciamo fare ai ragazzi. Sì, ciabattone sento diventata. Dov'è l'incontro? Ti sto scherzando. Ah, domani mattina, ancora. Vabbè. Domani. Ah, piuttosto, domani qualche. Sapete se c'è qualche supermercato aperto? Sì, in quella zona lì, vicino a casa di Pompuglio. Domani è 30. No, domani non è 30, domani è 23. Allora non lo so. Beh, perché è l'ultimo del mese che solitamente sono a Pirchia. Ma può darsi che qualcuno ci sia. Quello di Vianica è aperto anche stanotte, se ti può interessare. No, adesso non ci riesco. No, mi sa che siamo rimasti a zero di pannolini, che c'è un piccolino, mi è rimasto un pannolino per stanotte, ma mi serve per domani notte, se no ci allaghiamo. A te pannolini, a me una volta il latte, eravamo convinti di averlo, il bambino doveva mangiare il latte presto. Adesso mi si è fatto alle 5:30 di mattina, mi si è fatto il giro tutti i bar di Sassari, me l'avevamo a tagliarti qua. Mi ho girato con il via Pasqua, gli ho detto che mi serviva per le colazioni, gli ho detto che mi serviva per il bambino, non ha avuto pena di, non c'è sensibilità, boh. Poi sono andato più tardi, siamo a tagliarti e mi ha detto già, quanti ne vuoi, 2, 3, 4, quanti ne vuoi dei primi? No, vabbè, il latte fortunatamente... Non c'è per i pannolini, è la prima volta, vabbè, può succedere. No, se vabbè, se poi non trovo un aperto domani, vabbè, cercherò una farmacia. Ma chi è che in sottofondo mi diceva che ce n'era uno aperto? Io so che ogni domenica, la trasversa di via Corazzutta, lì a Serrasecca, vicino al quadrato, porca miseria, come ti posso spiegare? C'è quel grosso padiglione dove c'è il tabacchino, una pizzeria e anche una pasticceria. Dall'altra parte c'è un piccolo supermercato, io so che la domenica è aperto lì, perché due domeniche fa sono andato ed era aperto. In via Serrasecca allora? Sì, in via Serrasecca, sì. che risulta lì nell'area vicino a New Demontis, dall'altra parte di New Demontis, non dalla parte di Eurospina, di Lidl. Cioè, presente Lidl, la traversa, se tu sei al centro di Lidl, sulla destra, sono due traverse dopo. La traversa di Tiffany. C'è il mio supermercato, che so che la domenica è aperto, perché domenica fa ci sono andato anch'io a prendere roba. Sotto il Tiffany allora? Sì, esatto. Hai citato un consiglio dalla regia? Vabbè, allora ci trovo la mattina, vado lì, vado. Grazie, Salvatore, per l'informazione. Ho già messo a buttare giù la ISO e poi faccio le prove. Poi se dovessi trovare qualche cosa, sarò felice di passarti il settaggio. Riprendi Gianni. Quindi lasci vedere anche tutti i raduni, con lui. Ebbene, conviene con la storia del pannolino, è più tranquillo. Poi se l'autore non può uscire perché sicuramente la moglie non vuole andare a bruttare, allora siamo io e tu liberi, Gianni. Beh, non lo dico di voce perché sono un pipistrello. Guarda, non c'è problema, chiamo un amico, se lavora lì entriamo gratis, sì. Sì, non l'aggiungava. Ma comunque io, mi è sempre piaciuto il mondo di notte, mi ha sempre affascinato. Lo so, c'è vita e gioventù, io l'ho fatto per anni e mi sono veramente divertito. Poi lì avevo conosciuto mia moglie a Bruxelles, dopo un anno dopo che ero iniziato a lavorare lì. E facevo inverno e estate, inverno Bruxelles e estate siesta a Valghero per 10 anni buoni, e ho visto di gente che è cresciuta lì, e ti giuro ci sono ancora persone, che minimo sono 20 anni, con la pancia lì, con la barba, adesso non sono più ragazzi, sono persone adulte, che continuano ad andare lì assillati ancora, non parlano più come prima, stanno lì, si guardano un po' la gente, bevono tutta la notte, si fanno una mina e poi se ne rientrano a casa. Sono pure 20 anni che ancora sono assillati, proprio quei clienti affezionatissimi e al bruttare. E io ci ho frequentato un bel, sia al Bluestar che a Scalaruglia, tutti e due, andavo in tutti e due, ti dico la verità che mi sono sempre trovato bene, mi ho fatto l'ambiente, ho conosciuto molta gente, e frequentavo anche a Provà che andava di Curi, non so se ti ricordi. Te la ricordi tu quella discoteca, come si chiamava? Airport 84. Sì, si chiama l'aereo, il sabato è aperto, hanno fatto sul lato destro come una piccola pizzeria, mangi, mentre vedi le persone che vanno in pista col bar, è ancora aperto. E vanno diciamo persone, anche ragazzi, e la maggior parte sono persone diciamo di una certa età, parlano il liscio, questa musica qua. C'è un certo orario, un po' di musica di discoteca degli anni 80 e 90, è ancora aperta. E non so se ti ricordi, a Scalaruglia, quello l'ho smantellato io, la regia era fatta in multistrato, è fatta bene a forma di casco di moto, te la ricordi la regia? Quella l'ho smantellata io, ho lavorato anche lì. Capo, me la ricordo. C'è stato un break, lo facciamo venire avanti, Città di Ferro con la buonasera. Cappa, buonasera circolari, dai, ciao Gianni, poi mi è sembrato Antonello Sinandia, e poi non so se c'è qualche altro, ok, e prendi Gianni. Cappa, che c'è? C'è Massimiliano Archimede, c'era anche Alessio, che adesso facciamo venire avanti, vediamo un po' se Alessio è rientrato. Alessio? Ancora in bagno, ha mangiato troppo porcetto, c'è anche Salvatore, avanti Salvatore. K, ciao Sa, ben sentito. Cos'è che volevo dire? Massimiliano, hai capito l'errore che ho fatto? Sì, perché non è che non ne devi fare, devi bloccare tutto, Io lo sapevo perché quando l'avevo fatto sull'Asus mi aveva fregato anche a me una volta. Porca miseria, stavo cercando quell'Xcode, no? Quello. Siccome ho trovato la procedura, basta collegarsi sul sito Apple, software update, e invece un fico secco, il software update ti fa ragionare tutto il software installato sulla macchina, mi ha bruciato tutto. Gesù, guarda. Perché poi te ne renderai conto, quando provi vari setup, è bene che tu te li scriva dall'inizio, ti scriva che cosa stai provando, perché poi ti accorgi se è andata a buon fine quando si riavvia la macchina virtuale, e prova a caricare il sistema installato. Lì scopri che hai buttato mezz'ora e via, e fai un nuovo tentativo. Ma adesso sto provando a scaricare la 66i che ho visto mentre cercavo delle note riguardo alla mia di installazione. Ho visto che c'è quest'altra release, è stata rilasciata, e quindi voglio vedere se per caso un colpo di fortuna è a prima installazione o seconda ne cavo qualcosa, e anche io sto calando giù i file vari. Comunque, si va a tentativi lì, si va. Ma io non la prendo la macchina come quando corro, posso, secondo me ne apro due macchine virtuali e le trovo in coppia, così risparmio un po' di tempo. Forse può essere un'idea, perché io di più non posso andare. Ho trovato ieri dagli amici di CSC una bancata da 2 giga e ho sostituito le mie due da 500, e quindi almeno adesso c'ha RAM la macchina virtuale, però ne posso avviare una per volta. Comunque, vabbè, dai, che se no stressiamo gli altri. Avanti, sa. No, niente al di fuori dello stressamento, però essere sempre qualcosa di buono, di utile, sempre meglio ascoltare. Vabbè, lasciamo perdere il discorso computer, che io per computer non è che ci bazzico molto, lo uso soltanto per lavoro, però in quel poco che lo uso più delle volte mi fa dannare. Allora cominciamo lì a fare un attimino, a fare pulizia, a controllare l'antivirus se è sempre in azione. Comunque, più delle volte ti fa dannare, vabbè, diciamo la nuova tecnologia, non si finisce mai di imparare sulla nuova tecnologia. Ok, va bene, Osimandia. Ehi, buonasera, ti avevo salutato, dimmi tutto. Ehi, niente, dai. Niente, un paio di giorni fa ero lì da quelle coordinate. Sì, e cosa state combinando? No, sono salito a dare una mano lì a mio cugino, che avevo detto lì che è sposato lì con Emanuela, che abita lì a Ossi, proprio quella zona dovrebbe essere la zona di come si chiama? Allora, siamo saliti quella strada che c'è prima di Ossi, dove c'è quella fontana, siamo saliti lì, poi abbiamo fatto una salita ripida, insomma, non mi ricordo che zona si chiami. Comunque mi sono affacciato, siccome nella casa c'è una bella vetrata, mi sono affacciato e si vedeva tutto Sassari, Porto Torres, Lasinara, guarda, un panorama da far paura. Tu eri in zona vicina a casa, io abito in quella zona lì Terai, anch'io vedo tutto, ma tutta quella vallata, Sassari, Serrasecca, Asinara, sì, Porto Torres, Salghero, Platamona, si vede anche il mare, zona lì Terai, non è la mia zona, eri. Cappa, no, sono andato a dargli una mano, si è trasferito un po' di mobilio, e così via, e quindi ho visto questa bella vista, anzi, ma guarda, è micidiale, guarda, è micidiale, veramente un bel panorama, un bel panorama, va bene, comunque, va bene così. Gianni, doppio rumbo. Emilio, un attimino solo che mi devo assentare, che devo cambiare l'acqua di oliva. Ok, fai pure, rinnova l'acqua e le olive, perché sennò le olive non vanno più bene. Va bene, ok, Salvatore. Sappa, ma come mai hai questa amplificazione? Come mai ho questa amplificazione? Ma di solito uso sempre il solito apparato, il solito mic, non so, magari sono troppo alto di amplificazione. Mi sembra sì. Provi a ridurre di un pelino. Ok, ho leggermente abbassato, va meglio? Va già meglio, almeno dalle mie coordinate. Ti sento proprio quasi un po' al limite dell'inizio di una saturazione vocale, ma comunque posso essere benissimo io, Osa, per carità, non so se è la stessa cosa che sente il buon Osilandia. Sentevo un leggero fischio, ma niente di particolare, un fischio leggero sì, quello lo sentivo, però la modulazione la sentivo tranquilla, senza problemi di amplificazione da parte mia. Vero, anche io quel fischietto in basso, sottofondo. Ok. Vabbè, il fischietto adesso non lo so, magari sarà dovuto, diciamo, quindi usando un mic amplificato, diciamo, è un mic amplificato un po' particolare, così via. Qualsiasi mosca che voli, qualsiasi piccolo movimento da me che faccio, diciamo, raccoglie tutto. Quindi basta un po' così, anche lui è talmente sensibile che raccoglie. Va bene. Ho abbassato ancora leggermente, vediamo un po' se va meglio. Guarda, a me sembra di sì, Osa. Perché è vero, perde un po' di squillantezza, chiamiamola così, anche se non è il termine esatto, non è corretto la voce, ma rende l'idea, però ne guadagna di in ascolto. Ok, vabbè, diciamo che ognuno di noi ha la propria ricezione, ognuno di noi diciamo che usa l'apparato differente, logicamente sarebbe stato bene, diciamo, che tutti usassero lo stesso apparato, allora diciamo che la ricezione allora diventerebbe, diciamo, standard, ma purtroppo non è così, ma diciamo che possiamo sempre rimediare. Eh sì, e poi chiaramente è sempre molto soggettiva la cosa. Massimiliano, ma tu l'hai mai sentito un tal tipo dal Connecticut? Dove l'avrei dovuto sentire? Sul 14296 97. Ne ho sentiti tanti e ne ho collegato tanti. Dovrei controllare la log, il nominativo dovrei sapere, e poi controllo la log se l'ho collegato. E le americhe le ho fatte in 80 metri, però in RTTY. Ma questo è fisso di praticamente di notte. Fanno una sorta di contest, perché ho visto che si ritrovano su quella frequenza, lui, gente di Milano, Treviso, Napoli, Palermo, qualche spagnolo e così via. Sembra quasi un appuntamento immancabile della giornata, e c'è lui in sostanza poi che fa quasi da regista. Ma se non ho capito male sta sparando verso l'Italia con una direttiva da paura. Ah beh, probabile, no, non è la prima volta. C'era un periodo che in 40 metri la sera c'era il gruppetto che chiamava il Sud America e lo collegavano tutti i giorni. Tutto bene, bene, bene. Difficoltà quello di... chiaramente però non ho l'antenna adeguata, ovviamente. Però, e quindi credo che già faccia molto. Non sento bene la Sicilia, quello, però con la mia antenna fatta per la 27 non posso pretendere nulla. Ascolta, ma posso chiedere una cortesia, Salvatore? Come no, anche due se posso. Diciamo, l'apparato che tu stai usando per ascoltare, diciamo, quelle modulazioni al di fuori della 27, io sono ignorante in materia, cos'è? Un VHF e UHF? No, è un HF, è un HF, un transceiver HF, il 440. Ah, ho capito, sì, sì, va bene. Un attimino la domanda a Salvatore. Salvatore, mi meraviglio, perché a quanto ho capito sei un buon intenditore di software, di tecnologia. Diciamo. E mi hai detto, dice, non c'ho l'antenna adatta, non c'è bisogno dell'antenna. Adatta per poter fare una almeno dire e provare a dire che esisto. No, allora se noi parliamo di un discorso di trasmissione è una cosa, se poi è un discorso di ricezione è un'altra. Dicevo che a sentire sento così come sono le trasmissioni con l'antenna che ho, però volevo dire io non posso far di più perché non posso chiaramente provare a schiacciare la portante perché non ho l'antenna adatta, in questo senso volevo dire, capito? Sì, ma lui vuole arrivare al fatto che in rete ci sono alcuni siti dove esistono dei ricevitori collegati alla paginetta web e tu puoi, come se fosse una radio, ti sintonizzi e puoi ascoltare. E ascolti tutta l'Europa, perché in Germania mi pare che sia. Eccolo, Massimiliano mi ha colpito. Massimiliano mi ha scoperto. Sì, esatto. Io adesso vi sto ascoltando e trasmettendo tramite un computer, neanche dall'apparato. E scappa, ho capito. Però il discorso che a me piacerebbe portare avanti è proprio una trasmissione fatta con questo apparato, con la sua antenna, poi tutti le altre situazioni certo si possono fare, però questa è quella che a me piacerebbe fare. Allora, se vuoi fare con spese veramente limitate e rese alte, sempre mantenendo la regola spendere poco e ottenere tanto, io già da 8-10 anni mi sono realizzato delle antenne di filo, però non il semplice dipolo, perché il dipolo penso che occupa molto spazio e poi tende ad essere rumoroso e non va tanto bene. C'è un tipo di antenna che si chiama delta loop, è un triangolo equilatero chiuso in cortocircuito, occupa un terzo dello spazio che potrebbe occupare un dipolo normale per quella frequenza, con questo che la Delta Loop poi anche onda intera, perciò c'ha un guadagno di 3 dB e mezzo rispetto al dipolo isotropico. Con del semplice filo elettrico, ma guardate, bisogna fare i calcoli, è messo a triangolo col vertice verso l'alto, per dire, tu c'hai già il palo con l'antenna, in punta ci metti del palo, subito sotto l'antenna, una carrucolina, così puoi fare la sua bandiera, lì ci si sopra il vertice del triangolo e i due lati lì verso terra, anche se toccano fino al secolo non ne fa nulla, e non più così, è la discesa di un cavo, naturalmente monobanda, però poi dentro il triangolo ci puoi far stare tutti gli altri triangoli per tutte le varie bande, poi in ricezione è perfetto, lo puoi utilizzare. E con questo gioco qua ti puoi fare, io ce l'ho tutte, io faccio dai 40 metri fino ai 6 metri, una per ogni banda, e rese altissime. Io mi ricordo quella che avevo fatto per i 18 MHz, il giorno che l'ho issata, che l'ho realizzata e l'ho collegata, ho collegato il Porto Rico. Ma il triangolo perché possa essere un triangolo così tale, in basso tu i due, il lato basso, la base, come fai a tenerla dritta? La tieni dritta perché hai due angoli della base, c'ha due isolatori con due tirantini che li tieni in basso, uno dalla parte e uno dall'altra. Tu immagina un triangolo col messo la vertice in alto e la base in basso, però per tenere disteso il triangolo in modo che formi bene il triangolo, i due lati della base sotto vanno tirati con due tirantini, ma due tirantini con filo con della sagoma alla fine. E li puoi ancorare per terra, non c'è nessun problema, capito? Lo puoi mettere anche in obliquo per ottenere maggior resa, in modo che non risulti proprio completamente direttiva, ma risulti quasi una sorta di omnidirezionale. Io le ho sempre tenute a slooper, ovvero oblique, e hanno una miglior resa. Io con quelle antenne lì, guarda, prima di tutto che ti preserva l'apparato, perché in caso di cariche elettrostatiche non te ne porta dentro l'apparato, perché è un circuito cortocircuitato. Rumori te li abbatte tutti quanti, proprio QRM te lo azzera, così come i rumori elettrostatici, QRM, QRN, che sono i micidiali, e poi un segnale debole te lo porta su, perché ha un guadagno di 3 dB e mezzo. Un attimo, scusa, ho massima idea, ma tu usi l'accordatore? No, senza accordatore, queste antenne, se sono fatte bene, riesce ad avere rosso 1-1 tranquillamente, e non risentono del piano di terra perché sono polarizzate verticalmente. Ah, vabbè, ok, non metto lingua, non insisto, comunque. Stai parlando, diciamo, di un dipolo che non penso, diciamo, in ricezione oppure in trasmissione, perché diciamo la ricezione di frequenza è tutta un'altra, basata su un altro raggio di frequenza, però insomma la curvatura, farlo, diciamo, proprio preciso, al millesimo, a 1-1 di stazionarie, mi sembra un po' impossibile. Mi devi consentire, ma non sono d'accordo con te. Non si parla di un dipolo, perché stiamo parlando di una delta loop, che è tutta un'altra cosa. Ci sono molte direttive di un certo livello che si basano su delta loop, ovvero sono dei triangoli messi però col vertice in basso e la base in alto, a modo di direttiva proprio, con elementi radianti, riflettori e direttori. Ce n'era una su a Filigheddu, che l'ho montata io insieme a questo mio amico che è il radioamatore, lo sono anch'io. Hanno una resa allucinante queste antenne, Allora, io quello che ho descritto non è un dipolo, ma è una delta loop. E tu la devi immaginare come un triangolo, e un lato è tagliato e collegato il cavo. È possibile accordarlo a 1-1, faceva un tipo che per prima di tutto bisogna fare i calcoli precisi al millimetro in modo da avere la maggior precisione, ma poi per fare l'accordatura finale io uso un analizzatore di antenna, non uso uno svatmetro con l'apparato, ma sì, ci attacco proprio uno strumento e mi dà tutti i parametri. Per fare l'accordatura non bisogna fare altro che far scorrere tutto il triangolo nei suoi tre fulcri in modo da trovare l'accordatura finale, perché diciamo il lato dove c'è il cavo coassiale, la parte alta, quello funziona come se fosse un adesso mi sta sfuggendo il termine, comunque quello, il radiatore sarebbe. Perciò tu con quello lì, facendolo scorrere nel fulcro dei tre angoli, non fai altro che allungarlo o accorciarlo e trovi la cordatura ottima. Poi, siccome essendo cortocircuitata il tipo di antenna non ha i 50 ohm canonici, allora si deve utilizzare un trasformatore di impedenza, e lo si fa con un cavo da 75 ohm opportunamente calcolato per la sua lunghezza. Si mette questo cavo da 75 ohm che va bene quello della televisione, tiene intorno a 500 watt di quello grosso, ha tagliato opportuna lunghezza, e poi da lì fai la discesa col cavo coassiale classico RG58, è più che è sufficiente. Io le ho usate per quasi 10 anni, ce l'ho ancora adesso nel nuovo QTH, le devo rimontare, e ce l'ho che ogni antenna per ogni banda, e funzionano bene. È entrato. Ok, ok, ha registrato Gianni. Ho capito, adesso sono arrivato diciamo al tuo ragionamento. No, io inizialmente avevo capito diciamo la classica calcoletta, diciamo tirarlo su i due suoi lati, diciamo, e così diciamo avevo capito classico okay. Diciamo a burro rovesciato e così via, ma a quanto ho capito diciamo stiamo parlando di ben altro, capito. Va bene, è rientrato Gianni? Ma sono rientrato, non pensate che tutto questo tempo sia stato in bagno, ma mi hanno trattenuto, ci sono delle amiche a casa di mia moglie, mi hanno trattenuto a parlare, stavamo facendo un discorso, comunque da Maria De Filippi è svenuta una tipa, l'avete vista? No, per fortuna. Ma noi pensi che siamo gente che guarda Maria De Filippi? Vai Salvatore, ti hai in alto la bandiera. Ma che se Salvatore c'ha i poster di Maria De Filippi? Vergogna! Già, ti stai veramente considerando male Maria De Filippi. Io l'ho guardato perché era acceso a casa, non perché lo guardi, anche perché è un coso strappalacrime. L'ho guardato sabato scorso, però guarda, è allucinante, è una cosa strappalacrime, quindi meglio evitare. Ma siccome ce l'avevano attaccato acceso loro, quindi io l'ho visto per quello. Allora Gianni, guarda che sei fortunato, mica Salvatore c'hai fatto per Maria De Filippi. Organizzatevi, andate tutti e due, così mi siedo il giorno quando siete in televisione e vi faccio due risate. Che cosa parliamo di te? No, puoi parlare anche di caffè e di camomilla. Stiamo per far ritornare la pace in questo canale, là. Ma per carità, lascia perdere. Maria De Filippi, pro carità. Io la odio, guarda, specialmente con quegli occhiali nuovi che ti ha messo, fa veramente, guarda, vieni in voglia di andare in bagno. Partigiani, già ti è andato. Già è vero, Tutto sotto la stati criticando e chi disprezza compra. E vuoi lascia perdere. Poi non sai la cosa più brutta cos'è, la cosa fa veramente schifo. Quando l'ultimo, quando il programma sta per finire, chiamano quel cane da caccia addestrato e gli fa fare dei giochetti da gente caramellosa, qua fa veramente schifo. Allora la vedi anche tu. mia moglie intanto passa e sono costretto. Insomma, tutti hanno una scusa, ho capito. Se guarda, duro 30 minuti. Guardiamo giù. Bastano e avanzano. Tutti avete una scusa. Sono passato là ed era la TV accesa. E ci sono passato sabato scorso ed era accesa anche sabato scorso. Quell'altro era mia moglie che l'ha accesa, ci passava anche lei, eccetera. Insomma, per un motivo o per l'altro, tutti ci passate a guardarvela. Vabbè, ma al contrario tu, noi abbiamo di telefasse come ce l'hai tu per quel programma. Diamolo, che ci piace. È una cosa che tocca al cuore, se uno è sensibile piace, c'è poco da fare. Ehi, anche l'intestino. No, ringrazio che ha ancora l'opportunità di cambiare canale. Va bene, dai, anche lei fa la sua parte, diciamo, è un programma, capito? È un programma a chi piace, giusto come ha detto Salvatore, che abbiamo la possibilità ancora, fortunatamente, di schiacciare il telecomando. Non bisogna avere il cuore di pietra. Ma non piangere delle disgrazie degli altri. A volte ci si immedesima anche, capito? Lo so, sono cose che ti lasciano dentro qualcosa, a volte anche poco fa, finito il programma ti porti dietro qualcosa che ti lascia il segno. Sì, ma forse non lo so, l'avrete notato anche voi. Ma avete fatto caso che ormai sulla televisione non esiste altro che pubblicità e basta? E infatti. Ma io diciamo che non per vantarmi, ma ho visto diverse scale della vita, quindi forse un po' di sensibilità su certe cose ce l'ho in più di altri. Scale della vita ne ho visto tanti, dal più vecchio, dal più giovane al più vecchio, dal più ricco al più povero, ho visto condizioni disagiate di famiglie, forse le ho vissute toccate con mano certe cose. Ma non hai bisogno di guardarle in TV queste qua, proprio per questo motivo. No, non è questo che ho bisogno, è questo perché a me la mia sensibilità diciamo che le vivi certe cose, non si può spiegare, una cosa inspiegabile, no? Se diciamo ognuno ha il suo carattere, uno può essere più duro, l'altro può essere più sensibile a certe cose. Già, ma devi essere consapevole che questi, proprio perché sperano che qualcuno si sia sintonizzato su quel canale ricco di sensibilità e di emotività, sono loro infatti che organizzano queste trasmissioni con quella gente per suscitare quelle sensazioni, perché quelle sensazioni hanno un numero che per le pubblicità serve. E quindi ti sto dicendo, non è se, proprio perché sei una persona sensibile, non hai bisogno di guardarti queste porcherie qua, perché sono grandi porcherie sul quale lucrano sulle disgrazie altrui. Ma allora non guardiamo più il televisore, perché sono tutte le cose così. Il Grande Fratello che cos'è? È un troiaio. E l'altro che cos'è? La politica che cos'è? Se guardiamo tutto, allora non guardiamo più nulla, la televisione non ne guardiamo più. Vabbè che io già guardo solo i telegiornali e i documentari al televisore, basta. È difficile che, dico, Maria De Filippi è capitato sabato, perché era una vita che non lo guardavo più. Sabato scorso, e infatti mi sono sturato le ghiandole lacrimali, adesso basta così. Allegria. Sì. Sì, ma Gianni logicamente ha detto la sua, niente da dire, determinate situazioni della vita bisogna anche esserci, toccarle, conviverle giorno dopo giorno. Io delle volte rimango molto, molto, molto così a bocca aperta, sentire della gente quando, per dire, si sente di un particolare, di un qualche avvenimento particolare, sentire commenti allucinanti, commenti senza fini. Infatti 15 anni ha detto io ho messo qualcosa perché determinate situazioni le ho viste, le ho vissute, ricordo di Kruger, io sono d'accordo con Gianni, però purtroppo in questa vita, in questa nostra vita c'è molta gente che parla senza, non è detto che ognuno debba proprio sentirsi toccato o toccare con pelle i casi che possono succedere in questa vita. Capito, Salvato? Yeah, ma non stiamo parlando di questo, non stiamo parlando assolutamente di questo. C'è un grande equivoco. Stiamo parlando di programmi TV, non stiamo parlando della realtà del giorno d'oggi, stiamo parlando di programmi TV. Questi programmi si basano e basano il loro successo nelle storie che raccontano le varie persone, e tanto più sono lacrimose, tanto più sono drammatiche, per loro è un successo. Chi si sintonizza su questi programmi deve essere consapevole del fatto che si sta rendendo partecipe di quello che è un grande sfruttamento di una situazione. Le situazioni reali te le vivi tu nella tua vita quotidiana, ti fai le tue esperienze quotidiane, non è certo bisogno di guardare trasmissione del piffero del genere, che sì, ti stanno ricordando che ci sono determinate cose che ti leggi sui giornali o che te le vivi quotidianamente, ma certamente te le stanno facendo vedere come se fosse un film, ripeto, un film. C'è meglio camminare col paraocchi davanti e andare dritto per la tua strada e fregartene tutto il resto. Sì, ma a parte gli scherzi, mettiamo anche in chiaro che programmi decenti, culturali, sinceramente te lo danno a tarda notte, durante l'arco della giornata cosa vedi? È vero, pubblicità, materassi, spremi agrumi, telegiornale, uno mattina, oppure su canale 5 che vanno lì VIP e raccontano la propria vita quotidiana, che esperienze hanno avuto. Alla fine di costruttivo non c'è niente in televisione, guardiamoci chiaro. Tutte queste situazioni, dai Grandi Fratelli ai grandi talk show a tutto quello che ci gira, è solo un discorso esclusivamente economico. Ricordatevelo, è economico. Il successo si basa sul numero di persone che si collegano e che consentono di avere un ritorno economico per quella trasmissione. Tutto lì. Non è che c'è chissà quale grande discorso di fratellanza o di messaggio o messaggio sociale. Tu inizi dal dopo pranzo sino a sera inoltrata, che tu vedi una serie di trasmissioni che sono una più stupida dell'altra, e certamente quanto di più diseducativo ci possa essere. Però ci sono le persone che se le guardano e si infarciscono la testa di queste cose, di questi modi di fare, per cui tu senti la gente anche quando discute normalmente che si prende a voce. Perché? Perché lo vede fare in televisione, perché si prende a parolacce, e perché lo vede fare in televisione, e tutti quanti sono belli e contenti che si guardano queste cose qua. Ognuno ha stessi punti di vista. Molti programmi non si dovrebbero guardare, non si dovrebbe guardare più il televisore. Io lo guardo molto poco, ti dico la verità, guardo i telegiornali, ho televisore, i documentari. Film non le sto più guardando perché non ne guardo più. Preferisco starmene in radio, farmi quattro chiacchiere e parlare in radio, piuttosto che stare lì, programmi, tutte queste cose qui, difficile che le guardi. Sabato scorso è capitato che non c'era nessuno in radio, non sono uscito e quindi ho detto mi accendo il televisore. Acceso il televisore, c'era quello lì e mi sono fermato lì, non è che io sia un abitué, ma non mi voglio manco scusare, perché io tante volte l'uomo è restio ad ammettere i suoi sentimenti. Io dico sempre quello che sento, sono reale. Ma io sono pienamente d'accordo su questo fatto, per carità, Sì, che ti so. Il discorso principale che noi stiamo affrontando, e questo giustamente bisogna anche ammetterlo, no, di istruzione nel televisore non c'è niente, la verità c'è solo mondezza. Mondezza, giornali che non, telegiornali che non fanno altro che parlare di disgrazie dalla mattina alla sera, ne fanno programmi sulle disgrazie che succedono ogni giorno, però ti tartassano la mente. Io non metto in dubbio che adesso, grazie alla tecnologia e modi di comunicare, la questione è abbastanza ampia, però puntano molto sulle disgrazie e problemi quotidiani ogni giorno, ti sbattono una faccia, e questo sembra così, condizionano molto anche il vivere delle persone, bisogna stare anche molto attenti. E secondo me in questo discorso qua è anche abbastanza studiato per tenere le persone buone, perché veramente ci fossero stati dei programmi in cui le persone le portano a ragionare nel vero senso della parola, e a darle un'istruzione, perché la televisione potrebbe essere anche un elettrodomestico che ti dia istruzione, invece istruzione non ne danno, e condizionano le persone, le mettono in modo da non ragionare e rimanere degli schiavi, perché alla fine sono loro che ti danno, ti fanno vedere quello che vogliono. Dunque bisogna stare anche molto attenti al televisore. Antonè, però c'è questo da dire, peggio a chi si fa condizionare, capito? Non bisogna accettare quello che vediamo su determinati canali, perché ormai, diciamo, la tecnologia ha fatto passi da giganti. Ormai la televisione è soltanto, diciamo, un discorso di introito, capito? Cioè è un business da far paura. Tu mi dirai che la gente ormai non sa dove più darsi, non sa più cosa guardare, perché la gente ormai sta impazzendo. Ormai la gente ha tutto di più. Non stiamo parlando degli anni 20, 30 o 40 anni fa, dove indossavamo un paio di pantaloni, erano un paio di pantaloni normalissimi, non avevano la scritta Gas oppure Adidas o Nike, capito? Oggi è diventato un business, ma in tutto e per tutto, capito? Già, tu hai visto, l'hai mai visto Forum, per farti un altro esempio? Sì. Tu sai che quelle persone non sono le persone dei fatti che vengono descritti? Sono degli attori, diciamo, portano avanti la storia, ma non è che siano loro. Ora, una persona che non sa questo, e sono in tanti, perché tu questa spiegazione e le indicazioni di chi sono gli attori della che descrivono l'evento, il fatto, lo vedi alla fine nei titoli di coda. Tu pensi che una persona che gira un attimo su Forum e vede quelle persone, gli attori che si stanno scannando per una bega condominiale o per un tradimento o per un'altra cretinata, pensi che facciano un attimo un mente locale e dicano: accidenti, no, questi spesso sono attori, quindi è una cretinata, tutta quanta questa verve che si stanno mettendo nel sostenere le proprie tesi, o pensi piuttosto che vengano colpiti da quello che è in quel momento la descrizione del fatto e siano spinti a patteggiare per l'uno o per l'altro? Certo, ma e in effetti perché non mettono i personaggi veri e propri? Perché forse non si vogliono sputtare da farti agli altri, non lo so, comunque la storia la raccontano in modo, si studieranno bene la storia, com'è tutto quanto, dovranno, sono attori veri e propri, perché fanno le finte di adirarsi, di fare, quindi sono attori veri e propri. Tu lo sai che da Maria De Filippi in tantissime situazioni, proprio perché gli attori, coloro che sono i soggetti originali, spesso e volentieri non vanno in trasmissione e la lasciano fare a degli attori. Questo non lo sapevo. Pensi che visto quante persone nelle varie trasmissioni si sono spacciate prima come marito di una, oppure in un'altra situazione come l'imprenditore che, eccetera, eccetera. C'è una sfilza di centinaia e centinaia e centinaia di persone che sono tutte quante catalogate, che servono per riempire i palinsesti delle trasmissioni, e a seconda della persona che serve come aspetto, come carisma, come colore dei capelli, come questo e quest'altro, scelgono dalla lista, ecco, tu vai bene. Tanto è vero che nelle storie più strane, più pazzesche, più diverse tra di loro, ti trovi nei programmi spesso e volentieri gli stessi visi e dici: ma questo non l'avevo visto in quell'altra situazione, eccetera, eccetera. L'unico che si salva tra tutte quante questa marea di strani programmi contenitore è quello delle Iene. Perché? Perché in effetti comunque loro vanno proprio a fare dei reportage, sostanzialmente, che sono reportage dal vivo, ma lì report la trasmissione della Gabanelli, sono veramente poche. Potrebbe essere anche preparato quello lì, anche se il fatto che ci vadano loro, può essere preparato anche quello. Sono d'accordo magari con quello che devo intervistare, fare e via. Ma comunque, siamo in un mondo di marciume, e il marciume c'è da tutte le parti, nella politica, da tutte le parti. Quindi siamo abituati oramai a viverci in mezzo, siamo, diciamo, abituati, oddio, non è che li accettiamo, però in effetti questo ci presentano tutti, e quindi quello che vediamo si sa che non è reale al 100%. Sì, però devi contare che ti condiziona, anche se uno non lo vuole. Ti condiziona, anche se non lo vuoi, perché talmente è ogni giorno che ti martella la testa, sia in radio che in televisione, nei giornali, alla fine ti condiziona, alla fine in quel modo lì si riesce a capire che sei condizionato e devi un pochettino distaccarti dalla realtà, sia nella televisione, nei giornali e così via. Staccarti dalla realtà e vivere la vita senza televisione, senza radio e senza giornale. Allora da lì inizia a imparare un pochettino a riprenderti, diciamo, la tua libertà, secondo me. Perché alla fine siamo in televisione, bisogna proprio scegliere veramente le cose giuste e veritiere che ci siano. Sono molto poche, veramente poche. Ma bisogna imparare a scegliere per fare bene. Cioè, volevo dire questo come conclusione, perché poi se no facciamo un grande discorso. Ogni trasmissione ha un suo costo, ha un costo elevatissimo, e i ritorni pubblicitari ci sono nella misura in cui quella trasmissione riesce ad avere il giusto impatto per il tema che tratta. Quindi loro non si possono permettere di fare una trasmissione dove al limite possono far commuovere un pochettino il 10% di quegli utenti che la stanno vedendo, no, non se lo possono permettere. Quindi loro fanno una scelta, una cernita, studiano tutto quanto il corpo della trasmissione in modo tale da riuscire a ottenere il risultato, da farla sembrare quasi come una cosa talmente vera che te la stanno facendo nel salotto di casa tua. Loro non possono permettersi di floppare una trasmissione. E in fin dei conti poi le trasmissioni, giusto perché stavamo parlando di quella di Maria di Filippi, in sostanza fa il verso a quella che era in una maniera un po' più gentile le carambate che faceva Raffaella Carrà, con tutto che anche quelle di sorpresa non c'era mai niente, mai, non è mai stata una sorpresa, però le persone erano chiaramente invitate a fare la loro parte, per dare un senso di stupore, di meraviglia quando si riusciva a far incontrare determinate persone. Questa di Maria De Filippi fa sostanzialmente un verso, è un format che è venduto nel resto di Europa, così come tu ti vedi la sera la trasmissione di Gerry Scotti del Milionario, se tu ti accendi la TV satellitare e inizi a girare dai canali turchi ai canali ucraini, ai canali russi o polacchi, eccetera, eccetera, vedi lo stesso format con lo stesso studio, perché lo studio deve avere esattamente quelle identiche caratteristiche, e le trovi per le trasmissioni di Maria De Filippi. Sono dei format, servono per raccogliere e drenare pubblicità e per garantire un introito economico. Beh, certamente che sì, certamente che se il televisore può andare avanti, questo deve farlo, normale. È abbastanza normale. Quello che non mi spiego è come facciano a mandare gente diversa da Maria De Filippi quando vanno il postino a intervistarli e poi si vede sia la persona che viene intervistata va lì, è la stessa persona. Il fatto che le persone escano da una porta di casa vuol dire tutto e non vuol dire niente. Troppe storie le hanno inventate di sana pianta. Che vuol dire? È come quando noi pensavamo che ci fosse la diretta della bottiglia di spumante stappata a mezzanotte da Maurizio Costanzo con tutti quanti quegli ospiti, quando gli identici ospiti erano a riempire le piazze delle varie città come presenza pagata per quello che era il loro cachet richiesto. È casomai girata la trasmissione di Natale, girata a 10 giorni prima, cioè o di Capodanno. La verità purtroppo nelle trasmissioni televisive, la verità non è quella che noi vediamo, la verità è quella che ci viene raccontata da loro, sia come persone che come situazioni. Certo che ci sono delle situazioni che sono anche vere, ma non tutte sono delle situazioni che sono vere realmente. Ci sono molte situazioni che vengono ad esempio semplicemente riprese e recuperate da fatti di cronaca quotidiana. Anche lei potrebbe essere così, loro vanno, sono d'accordo con l'attore, intervistano l'attore, potrebbe essere anche quello lì un programma con gente non vera. Vabbè, comunque saremo sino a domani qua, facciamo girare perché sennò tutti poi si annuiano. Va, avanti Alessandro, poi fai girare tu. Prima vittima chi è rimasto? C'è Massimiliano. Ci sto ascoltando. Che bel talup, veramente interessante il discorso di prima. Se ne voglio fantasia, no? ti passo un paio di schemi, se no te ne realizzo una, o se la vuoi realizzare tu ti do una mano, non c'è nessun problema. La questione delle antenne è una bella attività, perlomeno a me mi è sempre piaciuta. Prendi del banale filo elettrico per impianti e lo fai diventare un'antenna e funziona. Guarda, io ho messo l'antenna dei 40 e 80 metri, 7 MHz e 3 MHz sopra nel tetto ieri, funziona benissimo. Io l'ho realizzata io, è un'antenna trappolata, in pratica è un dipolo accorciato che fa due bande, funziona bene, funziona. E con quello riesco a lavorare, che poi alla fine della fiera si risparmiano anche un saccaccio di soldi, perché se si va a comprare le antenne dedicate costano veramente tanto. Io parlo sempre di antenne filari, con un quarto, un quinto, a volte anche molto di meno di denaro riesce ad avere la stessa resa, perché tanto l'antenna e il discorso è quello lì, è un discorso fisico. Però hai praticamente una calata di cavo per ognuna di queste. Allora, volendo si può fare anche una calata unica, però se hai più calate, cioè una calata per ogni antenna, la resa è maggiore sia rispetto in ricezione che in trasmissione. Volendo, se hai spazio, si può realizzare un dipolo multibanda, ovvero nella stessa calata del cavo, invece di stendere due classici bracci del dipolo, nello stesso fulcro dove del polo caldo e polo freddo, fai partire altri bracci per il dipolo e puoi fare, per dire, solitamente si fa 40, 20 e 10. E così puoi coprire le frequenze di 7 MHz, di 14 MHz e di 28 MHz. E praticamente c'è questo dipolo che ha queste braccia che fanno man mano, sono tre braccia per parte. Però naturalmente la resa è quella che è, ecco. Se uno c'è spazio, io consiglio sempre la Delta Loop, perché a differenza del dipolo rende tantissimo e occupa meno spazio. Però naturalmente deve avere un palo, cioè ci deve essere un punto d'appoggio. Io nel vecchio QTH ero riuscito a mettere una carrucolina nella parete di un palazzo che c'avevo di fronte, che non aveva finestra, non c'era niente, era proprio una parete cieca, e su in alto c'era una vecchia staffa di antenna. Io lì con una canna pesca lunga 12 metri sono riuscito ad agganciare la carrucolina e col cavo me la portavo su, e lì c'era il fulcro delle antenne e le stendevo in obliquo. Un'altra antenna che potresti costruire, però è un po' più complessa, diciamo, anche se sembra più facile, è proprio la canna da pesca. Si usano quelle canne da pesca da 10 metri, 8 metri, 10 metri. All'interno si mette un cavo elettrico sempre di impianti da 2,5, e la canna da pesca serve per mantenere il cavo dritto. Però alla base, se la si vuole utilizzare per trasmettere, bisogna mettere un accordatore remotato. Io ce l'ho una così, infatti la metto. Cosa succede? Che tutta la calata del cavo risulta a posto, cioè senza ROS, perché la cordatura la fa subito dopo l'antenna, praticamente sta sotto l'antenna l'accordatore, è un accordatore per esterni fatto apposta. Tu quando vai in trasmissione lui legge l'impedenza dell'antenna e l'accorda di volta in volta, lo fai in automatico. Con questo, che avere l'accordatore sotto l'antenna rende maggiormente che non averlo in stazione, perché se c'è in stazione tutto il cavo di alimentazione dell'antenna, cavo passiale, diventa un'antenna anche lì, perché è pieno di ROS. Neccata. Tu ce l'hai presente la mia di antenna? Praticamente hanno fatto in sostanza una sorta di discorso del genere. Non so che tipo di antenna hai. No, però l'ho detto, la Game Master della Sirio. Vabbè, ma lì non ci dovrebbe essere bisogno di accordatore, perché se è talata bene non dovresti avere nessun tipo di problema. Nel senso che alla base hanno fatto un avvolgimento cortocircuitato. No, quello è diverso, quello serve per le cariche elettrostatiche, in modo che se l'antenna si dovesse caricare elettrostaticamente lo ributta a massa e non te lo porta nell'apparato, perché le antenne aperte come il dipoli o altre antenne c'è quel tipo di problema, che con le cariche elettrostatiche che si formano nell'aria poi te lo riporta nell'apparato e ti brucia il ricevitore dell'apparato, diventa sordo. Ah, ho capito. Inteso. E la metti obliqua a quanto? Un 45? Come ti viene bene? Come ti viene bene la metti obliqua, dipende dallo spazio che c'hai nel tetto, come riesci a posizionarla. Questa è per la Delta Loop. Invece per la canna pesca è verticale. Con questo, per la canna pesca io con quella che ho realizzato faccio dai 160, ovvero da 1,8 MHz fino ai 6 metri, perché diventano multibanda. La resa non è eccezionale, però ti permette di lavorare. Io con la canna pesca ho fatto tantissimi collegamenti. Ho capito. però la direzione verso, diciamo, dell'angolo ti indica anche la direzione massima di trasmissione, o non ha importanza? Normalmente deve stare a grouper, no, perché come mettere il dipolo obliquo, che diventa quasi omnidirezionale. Ecco, quindi anche se hai ostacoli vicino. Guarda, io nel vecchio QTH le delta loop erano ancorate a questa parete, c'era proprio questa parete di questo palazzo che era altissima, sono stati allora 1, 2, 3, 4 piani di palazzo, figurati. E lo utilizzavo quella parete come riflettore, anzi mi aiutava. Ah, ho capito. E quindi praticamente ne puoi mettere una dentro l'altra, e quindi è come se riuscissi a metterne anche 3, 4. Sì, per assurdo puoi mettere quante ne vuoi, tanto basta distanziarle di quei 40-50 centimetri, anche 30, non si disturbano l'uno con l'altro. Se non vuoi fare una cosa proprio, ti serve giusto per fare ascolto, comunque volendo puoi anche trasmettere, puoi metterle concentriche una dentro l'altra e fare un'unica calata. Ho capito. Dimmi un'ultima cosa, con la mia, che è dei, chiaramente per i 27, perché è studiata 26-30, dopodiché nelle caratteristiche dice, per il resto è totalmente sorda, in ricezione, quanto è che influisce il fatto che comunque non è esattamente un'antenna per le altre frequenze? Il discorso è questo qua, che l'antenna deve essere accordata anche in ricezione, perché se no non riesce a captare le altre frequenze. Mi spiego bene, se io prendo, come nel tuo caso, l'antenna della 27, è calata fisicamente per 27 MHz e ha una lunghezza, adesso sicuramente è una 5 ottavi quella che c'è tu, è una 5 ottavi degli 11 metri, perché 27 MHz la lunghezza d'onda sono 11 metri, poi naturalmente con fattori di velocità e balle varie non è proprio 11 metri perfetti, ma è leggermente di meno, ma teoricamente sono 11 metri. Ciò significa che riesce a captare in quasi al 100%, naturalmente dipende poi dal ROS che hai, il rapporto di trasmissione sull'antenna, e quella che irradia e quella che ritorna indietro, è il massimo. Così avviene anche per la ricezione, se l'antenna è perfettamente tarata, praticamente tutta l'onda magnetica che viene captata dall'antenna, che poi è un trasduttore vero e proprio, viene convertita in energia elettrica, riesce a arrivare al tuo ricevitore il massimo dell'energia captata. Se invece è starata l'antenna, non riuscirà mai a entrare tutta l'energia, ma entrerà una piccola parte, e quello si tramuta in sordità dell'antenna. Infatti molti radioamatori cosa fanno, specialmente con le mantove, le modificano, le isolano dal palo di ancoraggio, eliminano il cortocircuito e usano come stilo vero e proprio. Subito dopo, invece di collegare il cavo coassiale, ci collegano un pezzo di filo elettrico e lo fanno andare a un accordatore subito dopo il palo, e da lì vanno giù, e poi ci vede la canna a pesca e diventa multibanda. Ma come può la stessa antenna diventare multibanda? Perché quello che non riesce a temperare l'antenna in termini di lunghezza lo fa l'accordatore, in modo che riesce, perché l'accordatore diventa parte integrante dell'antenna, perciò tutta la parte dello stilo capta, poi tutto quello che manca, invece di disperderlo, lo ottimizza l'accordatore e te lo fa arrivare all'apparato con il massimo rendimento espresso in corrente elettrica, perché sostanzialmente l'antenna non fa altro che prendere il campo magnetico e tradurlo in corrente elettrica. Sì, no, comunque mi avevi già risposto, perché infatti io la spiegazione che mi davo era proprio questa, che necessariamente essendo biunivoca la questione, necessariamente, così come non potevo sperare di trasmettere avendo l'antenna non fatta per determinate frequenze e quindi rischiare di rimandarmi indietro tutta quanta sparata la corrente e bruciarmi tutto, idem in ingresso sull'antenna, la corrente invece che l'onda che gli arriva e che deve essere tramutata, ecco che ovviamente trova lo stop dall'altra parte. Esattamente così, il discorso è quello lì. Ah, guarda, poi il discorso delle antenne è proprio una materia scientifica sotto quell'aspetto lì, perché si basa su principi fisici, capito? No, ripeto, soluzioni ce ne sono tante, dipende da cosa vuoi avere, qual è lo spazio che vuoi utilizzare o che puoi utilizzare, e anche dalle risorse economiche. Io per esempio dal tuo posto potrei optare per una verticale multibanda realizzandola da una canna pesca. Tanto una canna pesca del genere costa veramente pochissimo, si trovano veramente pochi euro, bastano quei 8 metri, è sufficiente. Un accordatore remotato, per quello lì è necessario, quello magari costa un po' di più, ma quello poi più in là lo puoi sempre utilizzare, perché ti permetterà poi anche di trasmettere successivamente. E ti sei fatto un'antenna multibanda. Io con un'antenna del genere in 160, un MHz 8, mi sono fatto tutta quanta l'Italia, che per quelle frequenze è niente, cioè nel senso che all'ordine del giorno. Però tutte le altre frequenze mi sono fatto il giro del mondo senza nessun problema. Ne ho anche una portatile che utilizzavo al mare con un piccolo apparato HF, sembrava che stessi pescando, invece stavo pescando onde elettromagnetiche. sì. No, io ne ho una che mi si è rotto un attacco e stavo comunque pensando, perché ero contento del suo funzionamento, volevo comunque ripristinarla. In termini di metro, di metri, quando tu hai fatto il triangolo della Delta Loop, per quella più grande quanto ti è venuto in termini di metri di filo? No, quella più grande era quella per 40 metri e il perimetro era di 41 metri, fai 41 diviso 3 e sono 13 metri rotti, se non ricordo male, ogni lato. Sì. 369, 39, 40, 13 rotti, una bella storia, sì. Però se le metti in obliquo ti dà la possibilità, se non ce l'hai in altezza 13 metri, perché avere un palo di 13 metri, anzi qualcosina in più, viene un po' in salita, però se hai la possibilità di metterla in obliquo, anche se c'hai un palo più corto, più piccolo, non c'è nessun problema, a meno che non hai un altro figlio in una parete o insomma un qualche cosa dove ti permetta di tirare su il vertice. Quindi quella dei 40 metri, 13 metri, ed è quella più lunga. Sì, perché poi le altre vanno a scalare, capito? Perché a te ti può interessare 40 metri, solitamente ci sono durante il giorno, ci sono gli italiani, poi di sera al calare del sole o la mattina puoi trovare i giapponesi, si trovano su quelle frequenze, poi in 20 metri trovi spedizioni, insomma un po' tutto il mondo. E poi l'altra dove si lavora tantissimo, dove sono i 21 MHz, i 15 metri, lì solitamente Sud America, Australia, tutte quelle zone lì vengono lavorate tantissimo, e poi i 10 metri, ma i 10 metri c'hai l'antenna della 27 che può andar bene. A questo punto ti servirebbe 40, 20 e 15. 40, 20 e 15, quindi siccome quella di 40 sarebbe quella più lunga, le altre due le puoi mettere all'interno, secondo il ragionamento di prima. Esatto. Oh, ripeto, altrimenti ti fai la verticale multibanda, sapete che il costo maggiore è l'accordatore, un accordatore remotato che tiene intorno ai 150-200 watt e ti fa tutte le bande fino ai 6 metri, viene a costare, mi pare, intorno alle 300 euro. Praticamente funziona così, antenna, praticamente la canapesca, che poi puoi fare anche una long wire, ovvero un pezzo di filo il più lungo possibile. Non è importante come lo metti, l'importante è che lo fai più lungo possibile, lo metti dentro l'accordatore e poi fai la calata col cavo coassiale, e va bene anche quello. Ti sto dicendo, fai la pesca, accordatore, e poi fai la calata del cavo coassiale e la calata per l'alimentazione, che va a 12 volts. Tu, quando accendi la stazione, alimenti anche l'accordatore. Tutte le volte che vai in trasmissione, l'accordatore legge l'impedenza e sta sempre a accordare l'antenna, perciò vabbè, sempre grosso 1-1. Ma con questo principio, allora, se io prendo un filo elettrico, lo attacco alla punta della mia antenna, sino a scendere giù e sfruttare quindi gli altri 3 metri del palo che ho più in basso, quindi andrei 7-3 con 10 metri di stilo, io potrei fare un discorso del genere, mettendoci poi quindi alla base questo accordatore remotato. Il discorso è che hai un'antenna che già ha un'impedenza di 50 ohm. Per giocare con gli accordatori, le antenne non devono assolutamente essere accordate, perché sennò non ha significato, non hai l'effetto inverso. Ma sto dicendo, tu prima mi dicevi, teoricamente puoi metterci benissimo anche un filo, no? Ma un filo e basta. Lo devi isolare dalla punta dell'antenna, lo usi come appoggio. Usando l'antenna come appoggio. Allora sì, puoi mettere un isolatore e puoi scendere, addirittura potresti scendere in obliquo e hai più lunghezza del cavo. Sì, sì, si può fare senza nessun problema. Dovresti mettere un tirante dall'altra parte in modo da tenerla dritta, che sennò ti si piega a uncino l'antenna, perché in punta è debole. Sì, però ecco, infatti mi hai preceduto, perché stavo pensando, siccome potrei teoricamente agganciare un filo e quindi scendere in obliquo all'altezza di dove c'è l'aggancio dei tiranti dell'antenna stessa, quindi diciamo 5 metri più giù, però lavorando con un filo obliquo otterrei praticamente la stessa cosa, con la differenza che lo posso tirare, i tiranti mi permettono di tenerlo teso e dovrei riuscire a ottenere lo stesso risultato. Sì, esattamente, senza nessun problema. Però naturalmente in quel caso lì devi avere un accordatore, perché sennò non ce la fai, va messo subito dopo. Non pensare di mettere quel cavo coassiale e accordarlo giù in stazione, perché è una pazzia, è impossibile. E poi come piano di massa virtuale, mettere dei contrappesi, ovvero dei fili più lunghi, di varie lunghezze, più ne metti meglio è, e praticamente l'antenna, l'elemento radiante, vede virtualmente un piano di massa che ti permette di aggiustare il lobo di radiazione e di aumentare la ricezione, perché ti pulisce di più il segnale, diventa più sensibile l'antenna. Esatto. E poi dove li attaccheresti? In questo caso qua alla carcassa dell'accordatore, perché c'ha diciamo l'attacco proprio per i radiali. O se no potresti fare anche un'altra cosa, i pluviali, quelli rettangolari, e quelli marroni, per dire, basta metterne un paio di sezioni attaccate e tu non fai altro che fare la salita del cavo in un lato e poi la discesa nell'altro, e li colleghi all'accordatore, uno polo caldo e uno polo freddo, e hai fatto un'antenna. Ho capito. No, negativo, non abbiamo pluviali. non ne abbiamo. Sono tutti interni nelle strutture del palazzo. Ho capito. Mi sa che abbiamo fatto addormentare Gianni del tutto. E gli hai visto? Ma non solo Gianni, mi sembra un po' di gente. Quindi cosa vuol dire? Che noi non abbiamo palinsesto. Beh, non c'è nessuno qua. Chi è rimasto? Aspetta che ne approfitto per scaricare la parte numero 6. Eia. No, io l'ho cercata sul muro. Solo un attimino se ha terminato di scaricarla. Mi mancano ancora 6 ore allo scaricamento. E sta andando anche veloce. Sta andando a 140k. No, rieccomi. No, era il numero 5, non il numero 6. No, io ho trovato il torrent, però non c'era un solo speed, come si chiama, a disposizione, non sta andando, e quindi adesso me li sto facendo uno per uno. No, io ho fatto una ricerca così, ho trovato un attimo con quel nome che tu mi hai dato, e l'ho trovato subito. Sta caricando anche veloce, ha una media di 140k al secondo. Dice che ci vuole ancora 6 ore a terminare. Vabbè, sono 4,38 giga. Ho capito. No, io sto la 6.6, la 10.6.6i, quella che sto provando, perché l'altra ce l'ho, per vedere un pochettino, visto che ha molte più opzioni come scelta. Siccome ho visto un filmato su YouTube dove in pratica si evidenziava quali erano le opzioni per farla andare, voglio provare a copiare, ad applicare letteralmente quelle che hanno messo in mostra per rimettermelo. Che pizza, cavolo, cioè ho fatto una fatica per farlo andare, porca miseria, e mi sono bruciato tutto. Che stupido, vero? Vabbè. Allora, guarda, adesso che mi hai detto la 6.6, io ne ho trovato una ed è l'immagine di VMware, cioè praticamente è già installata questa qua, non devi fare altro che caricarla con VMware. Dovrei cercare la procedura, perché l'avevo trovata, per migrare le immagini e le macchine da VMware a VirtualBox. Vabbè, insomma, si è scaricato, vediamo un po' come sarà. 2,35 giga. È nulla. Beh, domani ci abbiamo il catechismo. No, noi ce l'abbiamo, vabbè, mezza settimana, ma questo periodo è fermo già, comunque ciò non ce n'è. No, vabbè, io c'ho 20 mega di banda, perciò quando aggancia già riesce a buttarlo giù velocemente. Con chi ce l'hai? Con Fastweb o con Telecom? Con Tiscali. Con Tiscali. No, quando noi ci siamo trasferiti avevo iniziato con Telecom, perché quelli di Tiscali mi erano girato le scatole perché non l'indirizzo IP non me lo riconoscevano come quello che avevo prima, sarebbe stato dinamico e niente. Con Telecom ce l'avevo fisso, però stava andando troppo lento, ogni volta era un problema, dovevo telefonare eccetera eccetera, e doveva essere lo stesso un contratto da 20. Adesso ho cambiato già da 5 mesi con Fastweb e mi sembra quando cammina bene, se non altro sono sempre attorno ai 12-13, che prima ogni volta crollava. Ma con fatto c'è il problema dell'IP. Però alla fine mi sono fatto un po' di conti, siccome la maggior parte delle volte tutto sommato i collegamenti li faccio da qua, da casa, ad esempio alla VPN che ho messo su in ufficio, ho lasciato perdere, ho detto vabbè, non fa fa niente, perché si fa c'ha quella rogna dell'essere ritracciato dall'esterno e bisogna aprire le porte, bisogna operare con il DNS. No, è una pazzia, non fa questo. Vabbè, volendo ti puoi fare. Io per un amico avevo fatto una VPN, però l'avevo fatta con la macchina, non so se lo conosci come servizio. Con quello lì riesci a bypassare un po' di roba. No, non lo conosco. Però ho chiesto già a quelli di Fastweb, mi hanno detto se lei ha l'esigenza di, mi hanno spiegato un pochettino come settare e in ogni caso utilizzare il DNS. Ah vabbè, se c'è quella soluzione, no, io con un contisto lì. Io ce l'ho già da più di 8 anni, anche nella vecchia casa, perché io ho anche il telefono con loro. Ci ho trovato benissimo, mai avuto di servizi, cioè si è trovato bene. Adesso quando mi sono riuscito qua, addirittura mi hanno aumentato, perché io prima c'avevo 8 mega, adesso me l'ho aumentato a 20 mega. Ci sono tutti praticamente. E va benissimo qua, è sempre a palla. Allora è la fortuna che sei in una centrale che ha il nodo praticamente vuoto. E anche va bella, dipende tantissimo dalle linee. Dipende dove cacchio sei collegato. Io ho un rapporto segnale rumore allucinante, che è perfetto, e quello vuol dire tanto. Ma devi avere anche un nodo al quale sei collegato tu e pochi altri. Noi in ufficio ce l'avevamo, eravamo contentissimi, avevamo il contratto da 24 con Tiscali, ce l'abbiamo tuttora, e andavamo di lusso, dai 14 ai 16 fisso avevamo. Poi piano piano, scendi, e le centrali sono praticamente intasate. E quel po' di banda che arriva cercano di distribuirla in questa maniera. Un po' problema. Io devo essere sincero, anche quando ero nell'altra vecchia casa, c'avevo 8 mega, erano sempre pieni. E anche qua sono sempre pieni, non c'è nessun problema. Pensa che abbiamo una sede distaccata praticamente in aperta campagna, abbiamo una velocità, abbiamo un contratto da 7 mega e viaggia più veloce lì che in ufficio. Può succedere, succede una cosa del genere. Ma devo essere sincero, sono contento, cioè non. Mi stanno benissimo facendo le corna e toccando ferro, non mi dà nessun tipo di problema, ripeto, va sempre a palla. Quando aggancio un sito o qualche altra fonte che è veloce anche lì, perché quel discorso bisogna che anche il corrispondente sia veloce, se no è inutile avere fatta banda che non riesce a sfruttarla, però quando l'aggancia in un attimo fai il lavoro che devi fare. E infatti devono avere anche loro l'upload performante, se no nulla vale, è vero. Beh, Massimiliano, se tutto va bene, cosa fai? Ce la fai a fare un salto tu domani mattina? Guarda, io domani mattina devo andare a prendere questi pannolini, sicuramente verso le 10. Cappa. Io ho appena finito questa maranandil di tra messa e catechismo, se ce la faccio mi avvicino su e così faccio un incontro in verticale con gli altri. Va bene, ok, d'accordo. Verso che ora? Per le 11:30, non prima. Va bene, allora faremo coincidere. E K, ok, dai, nel caso se sto salendo ti do, casomai ti mando un sms prima. Se non te le mando vuol dire che sono i soliti imprevisti. Eia, va bene, d'accordo, va. Ci sentiamo, buonanotte allora, sabato. Eia, K. Ciao Max, buonanotte, buon tutto. Ci sentiamo domani.